Ma non fa, è una, ma guarda che mia moglie non è mia moglie, non è mia moglie, è una signora che ha una sua testa, una sua politica e una sua esistenza. La Zanzara. Sai, caro Parenzo, che domenica succederà un casino ai seggi elettorali del centro-sinistra per le primarie? Tu lo sai, sì? Beh, la bagarre è già in corso. Succederà un casino perché ovviamente questa storia dei fax, su cui Renzi ha ottenuto un mezzo successo, perché cosa è accaduto? Che oggi si è deciso che uno si può registrare via fax, però bisogna sempre portare la giustificazione che verrà vagliata dall'ufficio provinciale, capito? Ma perché eri così? Il famoso ufficio provinciale che deve valutare la giustificazione, dai, su. Ma non era più semplice dire, non era più semplice dire andate, registratevi ai seggi, anche quelli che non hanno fatto al primo turno. Arrivederci e grazie e voti. Continua a voler cambiare le regole, a fregarti calarmato del risico. Allora, siccome tu citi le regole spesso a bambera senza saperle, lo sai qual è la regola? Mi sono informato io oggi, al contrario di te, che ovviamente non ti informi. Sai qual era la regola? Che poi è stata interpretata su... La conosci o no la regola? Beh, il Collegio dei Garanti... Non la conosci la regola, dunque stai chiacchierando e non la conosci. La regola diceva questo. Qualora nessuno dei candidati... No, questo non c'entra nulla. Possono altresì partecipare al voto coloro che dichiarino di essersi trovati, per cause indipendenti dalla loro volontà, nell'impossibilità di registrarsi all'albo degli elettori entro la data del 25 novembre, eccetera, eccetera. Punto. Dunque, non si diceva che ci vuole la giustificazione. Capito? Poi è stato interpretato già, ma non lo sai, dai, si discuteva già nel primo turno questa roba, di queste regole già, non lo sai. Bersani dice, senti Bersani dice, vabbè, non lo sai, punto. Bersani dice: se perdo sono un pollo. Non sarà una passeggiata, dice Miriam, pronostica Miriam, ma se alla fine perdi, caro Pierluigi, sei un pollo. Ciao segretario. Grande Miriam. Lo penso anch'io un po', Ok, accetto la sfida, via. Spero di non uscirne come un pollo, dai. Cambiare. Dice Bersani, a proposito delle regole, non possiamo cambiare il bambino nella culla, ma l'avete interpretato in senso restrittivo, e poi chiudiamo qui la vicenda perché la gente non gliene frega nulla, l'avete interpretata in senso restrittivo, punto. Solo Parenzo non l'ha capito. Ma l'avete chi? L'avete, quelli che decidono, non c'è Renzi là, loro decidono, scusami. Quelli di Bersani, Renzi, sono regole ridicole. Sì, c'è un comitato di mamma mia, sono regole ridicole, dice Renzi. Va bene, c'è un comitato di regole, in alcuni casi fanno un pochino, via, diciamo, non facciamo gli edulcorati, che sono regole ridicole. Quando c'è il responsabile organizzativo che dice che per andare a votare al secondo turno chi non ce la deve portare la giustificazione, io non so se loro si rendono conto che hanno superato il muro del suono del ridicolo. I biglietti aerei falsi, qualcuno li ha già prodotti. Il deputato Sarubbi insieme a Giachetti. I biglietti aerei falsi, Sarubbi, sentiamo. Sarubbi. Io smetterei volentieri, se però non facesse dei fenomeni. Perché quando arriva, è stato, mi pare, Nico Stumpo, il nostro responsabile organizzazione, a dire che bisogna portare il biglietto aereo, no? In un paese in cui vale l'autocertificazione per tutto, per lo stato di residenza, per lo stato di famiglia, ieri la residenza, lei ha eccetera. Avuto un momento, diciamo, ieri di goliardia, stampato 100 biglietti finti. No, mi sono divertito, per cui ho fatto il biglietto di Nico Stumpo a Pechino, ho fatto il biglietto di Vucinic a San Siro, visto che è andato come ospite non pagante sabato scorso. E a destra che accade? Beh, una grande verità l'ha detta Cacciari, questa mattina non so dove. Il PDL è un brand sputtanato. Il PDL ha fatto un fallimento clamoroso, si vuole ripresentare un brand assolutamente sputtanato, ma è ridicolo, no? Quindi è chiaro che a loro conviene presentarsi con tante sensibilità, come si dice una volta. Ennesima frase poi di Napolitano sul Porcellum. Devo dire la verità, l'insistenza di Napolitano sul Porcellum, cioè bisogna cambiare per forza la legge elettorale, ma chi l'ha detto? Cioè perché il Presidente della Repubblica mi permettano gli uomini del Quirinale, perché il Presidente della Repubblica deve insistere sul cambiamento della legge elettorale? Cioè, ma non si è mai vista una cosa del genere, appellandosi a un'interpretazione della Corte Costituzionale che peraltro non è vincolante, come ha spiegato il professor Dalimonte più volte. Cioè, ma di che stiamo parlando? Perché il Presidente della Repubblica si fa promotore del cambiamento della legge elettorale? È una cosa pazzesca. Io ripeto, se Cossiga avesse fatto metà delle cose che ha fatto Napolitano, sarebbe stato accusato di genocidio davanti alla Corte dell'Aia. 800 24 00 24, è con noi il segretario della destra Francesco Storace. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? È d'accordo con me su Cossiga Napolitano? Guardi, ho già un processo in corso su Napolitano. Vabbè, aggiungiamone un altro. E nemmeno ho detto tutto quello che penso, insomma, quindi lasciamo perdere. E aggiungiamone un altro, caro Storace, non c'è niente di strano. Ma no, io anch'io sono molto perplesso sull'intervento di Napolitano. Sai perché? Perché? Io credo che nemmeno nel Burundi, a 3 mesi dalle elezioni, non si sa qual è la regola con cui si va alle elezioni. E questo lei l'ha già detto, sì. No, però va bene ripeterlo, perché non c'è risposta. Perché il Presidente della Repubblica, io vorrei che rispondesse anche su questo. Lei sa che c'è una legge che dice che si possono raccogliere le firme, io sono rappresentante della forza, non sta in Parlamento, da sei mesi in prima. Se non si sa la legge elettorale, come si fa a iniziare? No, non solo questo, non sappiamo nemmeno, perché è talmente inefficiente questo governo, che l'anno scorso si è fatto il censimento, ancora non abbiamo i dati del censimento, quindi non sappiamo come è cambiata la ripartizione dei seggi di Camera e Senato in ogni regione. Sì. Vabbè, ma su Napolitano, adesso io non voglio farla di nuovo entrare in un conflitto, come dire, istituzionale, andare in tribunale un'altra volta con Napolitano, però il fatto, questa insistenza di Napolitano, come la giù? Mi dica qualcosa su questo, questa insistenza per cambiare la legge elettorale, perché? Pro Monti? Solo per rimettere sul trono Monti? Solo questo è l'obiettivo? Ma lei perché mi vuol far accusare di essere parziale il capo dello Stato? Non lo dirò mai. Come non lo dirà? Me l'ha già detto in pratica. No, è lei che lo vede, perché è lei che lo vede, io... Guardi che non è che la Repubblica più imparziale del mondo. Non l'accusa per questo. Se lei dice che Napolitano vuole Monti ed è parziale. Io direi che il Parlamento che lui delegittima ogni giorno questo atteggiamento è lo stesso Parlamento che ha eletto lui, insomma, sarebbe più prudente. Ecco. Cioè è stato eletto col Porcellum alla fine lui. Pure Napolitano. È stato eletto dal Parlamento, ha eletto il Porcellum. Vabbè, gli ho suggerito una cosa. Lo stesso Napolitano è stato eletto col Porcellum che adesso odia. Questa è la. Questa è una sintesi un po' affrettata, però non è manco tanto lontana la realtà. No, beh, nel 2006, prima volta col Porcellum, poi l'essere napoletano. Questo è non c'è dubbio. È la realtà. Senta, ma io non ho capito una cosa. Alla fine lei si candida a sindaco di Roma, no? Se non sbaglio. No, sbaglia, perché non l'ho ancora detto. Ho detto che mi piacerebbe, non ho detto come faccio. Anche lei, però, non è che può fare sortentenna pure lei. Sortentenna tutti, pure stanno. Mi hanno chiesto, a lei piacerebbe fare sindaco di Roma? Certo, piacerebbe la mia città. Beh, a lei non gli piacerebbe, ma non c'è, a me no, a me no, lei che fa attività politica, sì. A me sì. Ma ho capito, però insomma, oddio, non è che può fare. A me piacerebbe fare il direttore del TG1, però non neanche bicimento. No, adesso fanno. A me basta fare quello del Giornale d'Italia online. Tanto lo so che lo voleva citare il Giornale d'Italia online. Ma non c'è minimo dubbio. Ha trovato il modo. Bella che posso fare. Ogni volta che Storace va ospite da qualche parte, la prima cosa che fa è citare il Giornale d'Italia online. Addirittura Vianello l'altro giorno gliel'ha messo pure sul maxi schermo, l'amico Vianello. Ma cos'è? È il giornale che, nuovo di Storace. È il giornale che No, è vero. Ne parlavano tutti qui. Parenzo conta solo le cose che Parenzo dice che nei bar parlano solo di questo. Ne parlano solo di questo. Fanno spiritoso. Sotto casa mia, sì. Solo sotto casa sua, appunto. Certo. Vabbè, non fa lo spiritoso. Uno fa attività politica, fa pure così. Parenzo, dai, su. Qual è il problema? Io non ho capito. Però... dice che i politici fanno niente oltre alla politica. Uno fa pure il giornale e devi lamentare. Scusi un attimo, Storace, però adesso non può fare il sortentenna pure lei. Candida o no a sindaco di Roma? Perché in questo caso si candida, come lei sa, contro Alemanno. Allora, dico un'altra cosa. Che adesso dica una cosa nuova. L'ha già sentita al bar sotto casa sua, perché credo che al bar sotto casa sua ci sia molta gente che mi segue. Sì. Il 9 dicembre io avrò una grande manifestazione. E lo sappiamo questo qua. Poi, ecco, vedi che al bar mi informano. Lo sappiamo, l'ho letto sui giornali. Ve lo dico. Ma lei mi deve dire sciogliere le riserve il 9 dicembre. Io non dire niente, scusi. Voi mi avete chiamato, mi fate domande, io rispondo a quello. Il 9 dicembre scioglierà sta riserva su Roma, giusto? O no? O sulla Regione Lazio, o sul rapporto d'alleanza. Vabbè, lei come. è come tutti questi del PDL in questo momento, grande confusione. Beh, insomma, questa è tosta. Il PDL è stato in Parlamento, se fossi come loro gli farei pure io. Non sia invidioso di non essere in Parlamento, so che se ne frega, allora. Sì, certo. Scusi un attimo, ma la Polverini che fine fa adesso? A parte che questa cosa è vergognosa, me ne dia atto, che non si sa ancora quando si vota nel Lazio, una vergogna assoluta dell'Italia. Domani mattina leggerà il giornale d'Italia, ci sarà un mio articolo su questo argomento, perché secondo me bisogna andare a votare ieri, ma lo dico dal giorno dopo lo scioglimento della regione, sì. Questo me ne darete atto. Dunque la Polverini ha fatto male a fare sto ricorso, eccetera, no? No, chi ha fatto male è stato il governo con un decreto che ha reso complicata ogni possibile interpretazione sul numero dei consiglieri da eleggere. Vabbè. Perché c'è uno statuto. No, guardi, questo è un problema vero. Sì, perché però... Ma possiamo... male, scusi, chiedo se faccio finire. Vengo così poco qui. Ma non è vero. Se uno fa un decreto sbagliato, poi c'è un ricorso, bisogna rivotare la seconda volta. I ricorsi, basta, però non si possono decidere le elezioni attraverso la Corte della cosa, il Consiglio di Stato, cioè, non se ne può più. Non se ne può più. Come va a annoiare queste cose, vero? Ma no, ma sono noiosissime queste cose. Scusi, però la Polverini che fine farà secondo lei, dopo aver cantato Bella Ciao qui alla Zanzara e altre canzoni, da Belenata, Un Giorno da Pecora? Che fine farà? Sarà con voi e ancora di destra o no? Questo ovviamente l'ha chiesto a lei, lei ha negato anche di esserlo, però insomma io l'ho votata per governare la regione, non per fare un partito. Lei è molto deluso dalla Polverini, mi dica la verità. No, io sono deluso in generale dalla politica. Sì, la Polverini quanto è deluso? Da 1 a 10, quanto è deluso dalla Polverini? No, è perché anzi si è dimessa per reato commesso da un altro, quindi insomma rispetto a tanti altri. Però insomma ha cantato Bella Ciao, è una che insomma... però io ho detto pure che questa cosa la giudicavo proprio negativamente, quindi insomma non è che gliel'ho mandato a dire, no? No, è certo, le ha tolto la parola per un po' di tempo, pure non vi siete salutati. Vabbè, ho il traffico, va, torniamo subito. Che c'è? Che è successo? Non c'è il traffico? Che succede? Non risponde il traffico. È cambiato il sindaco? No, dalla regia mi dicono che non risponde il traffico, capito? Si rende conto o no? No, cambia il sindaco e quindi c'è più traffico, ovvio. Siamo qui 18:48 800 24 00 24 con Francesco Storace, leader della destra. I manifesti della Meloni in giro per Roma li ha visti? Sì, ho visto, ho fatto anche complimenti. Per il Photoshop o per la bellezza? Ma io non credo che sia Photoshop, vedi che è così brutta la Meloni, insomma, che bisogna dire che si è truccata. Che ha modificato, ha roccato la foto, insomma. Lei è piccata così. Per questo, ha detto, ma davvero sono così brutte perché dite che ho rifatto... Ma c'è ragione. C'ha un collo un po' grosso, perché... sembra un collo un po'... Ma insomma, io la persona normale... Però... Oh, belli, no? Belli certo, sicuramente se ne parla, quindi insomma... Se ne parla, dunque... Hanno colpito. Ma Berlusconi ha registrato 7 marchi, 8 marchi, vanno da centrodestra italiano a... Meglio i marchi che la Merkel, no? Meglio i marchi della Merkel. Scusi, ma dia un consiglio anche lei a Berlusconi. Oggi qualcuno dice, non mi ricordo chi, ha detto, vabbè, basta. Anche Feltri, in un'intervista non so dove, Italia Oggi, ha detto, ma basta, ormai stia a riposo, lascia gli altri. Lo dica anche lei, Storace. Io l'ho scritto stamattina, sempre, indovina Valenza. Oh, no, e basta, questo sempre. Funziona l'Italia online, e ci sono le risposte a tutte. Vabbè, le cose. Vabbè, che ha detto su Storace? Voglio capire che cosa si è messo in testa, cosa vuol combinare. Spero prima o poi di incontrarlo e di poterci parlare e capire come pensa di procedere con questo partito che ha fondato lui, perché poi non dimentichiamo che col partito che ha fondato lui io non ci sono voluto entrare, sì. Lui si è fidato di Fini, sì. Io l'ho avvisato e alla fine ha dato ragione a Fini e poi alla fine ce l'ho ragione io e così per tante altre cose, quindi se magari desse un po' retta. Ma il PDL è sputtanato, come dice Cacciari, ormai? Chiedo che il PDL cambierà. Se è vero, no, ma il nome, il simbolo, il brand è sputtanato ormai. Beh, certo, ma lui lo può cambiare, quindi insomma basta che lo chiama la destra, perché quello è il nostro. No, però centrodestra italiano vi frega un po'. Mamma mia, una cosa si può sentire. Ma io non ho capito. non ho dubbi, non capisci. Tu non capisci sempre. No, io non capisco, c'è delle cose della destra, non le capisco. Cioè, non ho capito, Storace sta lì ad aspettare, poi ci scriverà tutto sul suo giornale, domani spiegherà la linea. Voglio capire, sta aspettando che cosa, signor Storace? Questo da Berlusconi, che si aspetta? Io sto cercando di capire la legge elettorale. Ah, vabbè, quello. Se permetti, no? Quello la fa Calderoli, no? Ma scusi, ma sarà la porcata bis di Calderoli. Ma voglio capire su quali di quali contenuti si parla, perché fino a ora sta parlando solo di contenitori anche scadenti. Sì. Io vorrei capire sul rapporto con l'Europa, il tema della sovranità, l'immigrazione, il lavoro. Sì. Quali sono le proposte? Ma per Monti lei è un criminale, molti economisti anche criminale, non si può dire. No. Ho una pancetta, oltre 50 anni, pochi capelli, insomma, criminale, non sono il fisico adatto, diciamo, a criminale. No, Monti. Sì, sì, ho capito. Sì. Non ha il fisico per fare il criminale, dice. Ah, per me lui è un criminale, molto peggio, andrebbe arrestato per tradimento. Vabbè, Storace, su, ma che arrestato ha servito questo paese alle banche, la solita cosa, l'Europa, le banche, le fa, perché voi altri oramai siete tutti conformisti, non me ne frega noi tutta, conformisti, no? Voi anche voi se ne fa, è andato alla cena di un gruppo internazionale chiamato Bilderberg, esatto. Sì. Sì. Prova ad immaginare se ci fosse andato Berlusconi. Sì. Parenzo si sarebbe denudato davanti al locale a chiedere cosa stai facendo lì dentro, capito? Monti denudato, lei ha delle perversioni. Ma che vergogna, perché che succede al Bilderberg? Che succede al Bilderberg, Storace? Che succede? Andate a incontrare delle persone. Pensato, capito? So che ci stanno personaggi, insomma, che affaristi, banchieri d'affari, economie mondiali. Vabbè, si rassegna, è così. Non, i destini dell'economia non li possono, sempre. Ma non li possono più decidere. Voi vi dovete rassegnare. A che, a che cosa ci dobbiamo rassegnare? Comunque lei dice è peggio di un criminale, ha detto Monti, è peggio di un criminale. È su, no, no, io dico andrebbe arrestato per tradimento della nazione. Ma si è arrestato, cioè, i carabinieri, dice lei, i carabinieri. Non c'è dubbio. Cioè, sulla base di quali reati, scusi? Alto tradimento. Ha consegnato l'Italia alla potenza straniera. E quale sarebbe questa potenza straniera? La Germania. La Germania, lei un po' dovrebbe stare simpatica. Ma no, dei tempi no. Una volta sì, diceva. Ecco, sapevo io. È scontato quello che dite voi. È lei che me la dà. È lei che me la so. È lei che me l'ha offerta la cosa. Diciamo, siete una trasmissione di casta, ecco, perché dite sempre le stesse cose. Ma non è vero, io uno do il fascismo questa volta proprio non l'ho pronunciato con lei, guardi. Non, zero. Adesso, ma no. Sempre. No, Alba Dorata. Di Bella Ciao. Allora, Alba Dorata, le piace come cosa che è nata in Lombardia? No, se no Parenzo chi lo regge? È interessante l'esperimento di Alba Dorata in Lombardia, Storace? Ma di che parliamo? Facciamo ridere la gente. Ecco, appunto, no, meglio. Appunto. Scusi un attimo, però adesso diciamo. No, lo dica, sono dei volgari nazisti, fascisti, schifosi. No, non perché io dico io dico semplicemente che sono dei copioni rispetto alla Grecia, ma fanno ridere. Cioè, insomma. In Grecia sono seri, dice lei. No, semplicemente io sono dei modelli italiani, ecco, tutto modelli qua. Italiani. Forse ci vorrebbero un po' di colonnelli. Ma la sua canzone preferita politica, non la voglio. Roma di Venditti, grazie Roma di Venditti. Ah, no, politica. Io amo, politica, cos'è? Trama nera. No. Ma io l'ho detto l'altra volta, io fino canticchio nella doccia faccetta nera. Ma credo che lo fanno molti italiani, però nella doccia. Me l'avete già chiesto? No, ma io non la sua canzone. State invecchiando, siete peggio della casta. Ci vorrebbe Renzi a condurre questa trasmissione. Forse ha ragione. Magari arrivano i voti dei faxisti, eh? Forse ha ragione, lo sa. Ci vorrebbero i voti dei faxisti. Ogni tanto ci ripetiamo, ha ragione. Trama nera. Com'è che fa Parenzo questo? Questa è la gioventù di Parenzo. Parenzo, com'è? Che fa? No, non mia, ma faceva trama nera, solo con il colpo in carriera. Vabbè, lo sa. Trama nera. Gli amici del vento. Bello, bei tempi. Ma bellissimo. Ecco, senta. Trama nera, siamo al top qui, siamo al top. Gli anni di piombo, la magistratura rossa, voglia. Ma che magistratura rossa, che palle! Beh, siamo perché al top. Avete dubbi sulla persecuzione dei giovani di destra in quegli anni? Ma no, dai. Ancora di rispetto, per favore. Scusi, storia, ma è vero perché c'è stata tanta gente che ha pagato. L'ultimo è stato Pino Rauti, che per fortuna è morto dopo gli 80 anni, quando è stato a pulire all'Italia, che era innocente del suo reato di strage. Parenzo, su queste cose non si scherza. Ma non si sta scherzando. La persecuzione verso gli innocenti è qualcosa di terribile. Glielo dice uno che ha passato 7 anni sotto processo per il cosiddetto Lazio Gate. Si dice che è uno scandalo, è finita che il fatto non sussiste. A me questi 7 anni non mi restituisce nessuno, va bene? Quindi bisogna stare un po' attenti quando si parla di questo. Ma guardi Sorace, che negli anni 70 c'era... Vabbè, lasciamo perdere gli anni 70, non gli frega niente nessuno. È successo 7 aprile contro... Però che c'entra la doccia, Faccetta? Non mi ricordo sta cosa della doccia di Faccetta Nera, che c'entra? Come no, me l'avete chiesto già l'altra volta. Ah, che lei sotto la doccia canticchia Faccetta Nera. Come tanti, lo stesso come tanti italiani. Sì, ma per tanti italiani. Anche parenti. Tanti. No, assolutamente no. Forse lo uso quando devo andare al gabinetto. Abbiamo le registrazioni. Quando ho problemi di stitichezza, forse lo chiamo. Sorace, dia un consiglio a voce alta a Berlusconi, no? Attraverso il suo giornale. Dia un consiglio a voce alta a Berlusconi. Silvio, che devi fare? Liberati da loro. Liberati da chi? Di loro. Da chi? Da quelli che lui dice, che lo imprigionano. Cioè, la russa, questi qua. No, questi affari suoi, io faccio nomi. E di chi? Se lui si lamenta che non riesce ad andare avanti, se ne liberi. Insomma, l'ha scelto lui, eh. Quando ha fondato il PDL è sempre lui l'ha scelto. Il cerchio tragico l'ha chiamato qualcuno. Ah, problema loro. Grazie, a presto. Salute. Io la combatto da ore. Punge e poi fugge da me. E cerca il posto migliore per fare un pasto da re. Dove sei, ma dove sei? Lasciami dormire. Eccoci di nuovo in onda con la Zanzara. Caro Parenzo, dove sei, a Roma oggi? Beh, certo, sì, a Roma Urbe, nella capitale morale, sì, ma infetta di questo paese, capitale corrotta. Nonostante questo, perché dici queste stupidaggini, la capitale corrotta? Nonostante questo, anche oggi non hai t'ho pizzicato su una cosa che non hai studiato, che sono le regole. Ogni giorno ti voglio pizzicare su una cosa che non studi. Ma ogni ma giorno. Scusami, ma chi sei, il professor Cruciani? Esatto, che bravo. Fa la penna rossa? Bravo, sì, bravo, bravo. Io posso ti faccio sentire, Squinzi, ti faccio sentire. Posso accettare che Squinzi mi telefoni, è un amico peraltro, Squinzi, voglio dirlo. Ma non è vero che è amico tuo. Non l'hai mai incontrato, devi dire invito a lui, infatti è vero. Senti un attimo. No, però è bello dirlo, sì. Ti faccio sentire Isidori, sì, un deputato della Lega, Intervento Isidori, deputato marchigiano della Lega. Aspetta. Ma perché lei ha la passione per sta gente? So. Allora, perché? Isidori, deputato marchigiano, sì, della Lega, oggi, sì, alla Camera. Oggi alla Camera si parlava di carceri, senti. Il carcere è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza. Si deve scontare la sua pena per scritta, che gli aspetta. Lo sapeva prima fare il reato. Io ritengo come Lega di non uscire prima della sua pena irrogata. Grazie. E cerca il posto migliore. Mitico Isidori. Mitico, però chi è questo? Il marchigiano spinto ha fatto capire, dice, nessuno può uscire dal carcere se la pena non è stata erogata. Questo voleva dire, nessuno può uscire dal carcere se la pena non è stata erogata. Ma chi è questo fine giurista che ha studiato alla scuola di Zagreb? Ma non è che tutti devono essere fini giuristi quando vanno alla Camera. Esiste pure gente del popolo, come sa Storace, gente del popolo che va alla Camera e non è erudita come te. Come te. Cioè, poi non esageriamo. Non è erudita, non ha studiato come te. E ma poi no, tutto, ma non è quello. Tutto questo studio alla fine. Titoli del TG3. Quello, i titoli del TG3. I titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Tromba d'aria all'Ilva di Taranto, disperso un operaio che lavorava su una gru crollata in mare, decine di feriti, evacuato lo stabilimento, impianti devastati. Il tornado aggrava la situazione di 5.000 operai a rischio licenziamento. Clini, no alla chiusura dell'Ilva, venerdì il decreto, stop al sequestro, proseguire le attività. Italia sferzata dai temporali, gravi danni in Puglia, Liguria e Toscana, colpite molte zone già sconvolte dalla precedente alluvione. Allerta in tutta la penisola. Legge elettorale, basta col gioco degli equivoci, lo scrive Napolitano in una lettera al deputato del PD Giachetti, che sospende lo sciopero della fame. Alle 21.10 su Rai 1 il duello tra Bersani e Renzi. A 4 giorni dal ballottaggio si alza il livello dello scontro. Mediazione sulle regole, sì a email e fax. Tutto da decidere nel PDL sul destino delle primarie, in attesa di sapere se Berlusconi presenterà o meno la sua lista. Al TG3 Ignazio La Russa. Domani all'ONU il voto per annettere la Palestina come Stato osservatore, per ammettere la Palestina come Stato osservatore. No di Germania, sì di Francia e Spagna. Londra verso l'astensione, l'Italia deve ancora decidere. zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Eccoci qui, 19:20, 800 24 00 24. Ho trattenuto Francesco Storace, qui con noi, segretario della destra, stasera particolarmente simpatico. Ogni tanto è in vena, ogni tanto c'ha, ma è normale, come tutti d'altra parte, no? Stasera lo vedo in forma, molto in forma, Senta, Storace, ma... ma è dimagrito anche un po', mi pare. Non credo che sia dimagrito, è dimagrito, chiede Parenzo? 11 kg. E come ha fatto la Ducan? È a furia di scappare a Parenzo. Ma scusi un attimo, ma ha fatto, segue il modello Berlusconi oppure è una cosa artigianale sua? No, casomai è Berlusconi che segue il mio modello, cominciamo. E qual è il modello suo? Scusa. È il modello mio, è la dieta se taglia. Cioè, non si mangia dieta. Senta, ma invece ho un fantastico nutrizionista, vi faccio pubblicità. E chi è? Chi è? Mi dica. È il professor Migliaccio. Ah, quello che va sempre da Vespa, sì. Lo farò intervista al giornale d'Italia online. Pure, un'altra citazione. Professor, due marchette, una al professor Migliaccio e l'altra al giornale d'Italia online. Non se ne può più. Ma io dico, ci sono i vostri. Ma è una marchetta continua. È una marchetta continua. Ma quale poteri forti? Capito? Io ho, insomma, poca roba. Lei c'aveva Flavia Vento una volta. Una volta c'aveva Flavia Vento, si è fatta scappare dalle sue liste. Beh, Flavia Vento, lo sai che mi è dispiaciuto farmi scappare, perché insomma, uno, però poi facevo gelosire un sacco di ammiratrici, non vale la pena. Ma tu lo sai, Parenzo, manco questo sa Parenzo, che Flavia Vento era... Ma Parenzo non sa niente, Parenzo insegue i fantasmi, fa Pianuccio della 3, non capisce nulla sostanzialmente, Parenzo. Allora, Flavia Vento si era candidata con Storace, credo... Potrei querelarla per diffamazione. Credo devi querelare anche me. No, perché il giudice vedrebbe ragione, aperti la causa, Parenzo. Scusa un attimo, David, tu sai che la Vento, che sarà il nostro ospite più tardi, che è stata bannata oggi da Grillo, tra l'altro, era stata nelle liste di Storace, credo, alla regione del Lazio. Ma che è successo? Questo lo so. Ha fatto Vento negativo, però. No, come Vento negativo? Ah, quelle perse con Marrazzo. Quelle perse con Marrazzo. Esattamente. Con quelle... Scusi un attimo, ma perché poi... Quelle perse con quel grande presidente che è venuto dopo di me. È il grande presidente. Perché, diciamolo, io non ho mai avuto la presunzione di essere stato il miglior presidente del Lazio. Sì. Dopo Marrazzo so che deve essere stato il peggiore. Vabbè, solo per quella cosa là, solo per quell'infortunio che ha avuto. Però sul giornale d'Italia è stato tante... Oh, mamma mia! Scusi, ma se lei dovesse... Il giornale d'Italia.org. Vabbè, lo sappiamo. Guardi, se lei continua a fare così, non ce l'ha nessuno poi, è una pubblicità negativa. Ma non scrive qualcosa invece. Ecco, bravo, Parenzo. A condizione che sia gratis e scriva una volta tanto le cose vere. No, sai chi dovrebbe scrivere? Quella preside anti-occupazione che canta Bella Ciao. No, quella canta Bella Ciao, lo faccio scrivere la Polverini, scusa. No. Scusi, ma come la giudica questa preside anti-occupazione che canta Bella Ciao? È una che l'ha stonata, diciamo. No, ho capito, ma... Ma non come canta. Ha respinto il blitz. La preside dovrebbe educare, cioè non dire certe cose, cantare certe cose. Perché? Cioè, che è diseducativo Bella Ciao? Certo. È diseducativo Bella Ciao. Cioè, fate il titolo, dai, fate il bel comunicato adesso. No, vabbè, Storace, Bella Ciao, diseducativo. Allora, Parenzo, allora, Cruciani dice, diseducativo Bella Ciao. No, ma l'ha detto lei, l'ha detto lei. No, ma l'ha detto lei, non è che l'ho detto io. No, a me non mi piace per niente Bella Ciao. No, lei ha detto che è diseducativo, è diversa la cosa. È diseducativo, bravo. Ma no, ma... La mattina uno dorme, si sveglia. Ma guarda, scusi, veramente non voglio fare il solito. Ma scusi, meriterebbe invecchia un po', dai Parenzo, invecchia un po' e fai la predica. Ma meriterebbe qualche schiaffone agli studenti? Non voglio fare nessuna predica, ma il fatto che ci sia ancora qualcuno che la pensa così in questo paese, che ti devo fare? Va bene? Che vuoi fare? Cioè, che vuoi fare con quelli che non amano Bella Ciao? Che vuoi fare, Parenzo? Che vuoi fare? Cioè, mi deve piacere per forza Bella Ciao, sentiamo. Ma no, ma dire che dice tu. Cioè, ma tu ti rendi conto? Adesso mi fate incazzare tutte e due. No, cioè, in Francia. E approfitti che stai a centinaia o forse migliaia di chilometri lontano. Perché sennò due schiaffoni gli darebbe. No, io offro un bel caffè. No, ma lo so, alla fine Storace lo sa che ha detto ieri, sai chi è che ha detto che più Rondolino e più la Russa e Storace, che sono considerati ex fascisti in realtà, o comunque perché presunti tali, sono più liberali di chi diceva, chi parlava Rondolino, D'Alema. No, sono più aperti di quelli del fatto quotidiano. Del fatto, sì. Sono il fatto, tutti integralisti. Invece sul giornale d'Italia diamo spazio. Oddio, questo giornale. Ma se lei dovesse Storace, se lei dovesse andare domenica a votare al ballottaggio delle primarie del centro-sinistra, chi potrebbe? Io mi sono però registrato è vero che potrei, come avete detto, mandare un fax, poi però quelli dicono sono i faxisti. Però guardi che non l'accetterebbero comunque, credo. Ma per chi voterebbe in ogni caso? Lei potesse, chi voterebbe? Guardi, dopo che ho letto il casino che stanno facendo i bersaniani, sì, che accusano Renzi di voler vincere alle primarie grazie al popolo di centrodestra, sì, vuol dire che si ammettono di essere in minoranza del paese. Allora? Vabbè, ma questo la tentazione di andare a votare ce l'ho pure io, No, vabbè, ma lei non andrebbe. Anzi, quasi faccio come un appello. Faccia un appello. Ai suoi, sì, faccia un appello. Mi raccomando, non sprecate il voto e conservatelo per le politiche, ce lo vedete da noi della destra. Vabbè, d'accordo, però ai suoi della, ai suoi della destra. Io non li voglio disturbare più volte gli elettori, devono andare quando conta al voto. Ma anche là, faccia un'azione di disturbo, Strace, un'azione di disturbo. Faccia un'azione di disturbo domenica ai suoi. Qualunque elettore va a votare tra Bersani e Renzi, lo illudono che sceglie il candidato alla presidenza del Consiglio. In realtà hanno già deciso che si chiama Mario Monti. Vabbè, quello, ma quello lo sappiamo che lei... Lo sappiamo. No, però voglio dire, se lei dovesse... Ma Renzo non lo sa, però. Se lei dovesse decidere... No, se lei sapevo. Potesse, domenica, se lei potesse... Renzo non legge il giornale d'Italia. Se lei potesse, domenica, chi sceglierebbe? Se lei potesse, domenica, chi sceglierebbe tra Bersani e Renzi? Domenica scorsa, il mio candidato preferito era Puppato, perché riempie la bocca solo a pronunciarlo, Puppato. Vabbè, ma che vuol dire su adesso? Puppato. Ma lei fa tutte. No, vabbè, ma tra Bersani e Renzi, su, Storace, mi dica sta cosa. Mi faccia godere un attimo, mi dica quello che io so, quello che io immagino. Quello che io immagino. No, io sono un ortodosso di partito, quindi potrei Bersani. Oh, e finalmente l'ha detto, su. Che fonde anche, secondo me, anche un po' dei nostri Bersani. Cioè? Io lo vedo abbastanza attento. Antimontiano, dice lei, è diventato anti. Vabbè, no, sicuramente vuole. Lui vorrebbe stare al posto di Monti. Sì. E quindi idealmente c'è più simpatia per lui, insomma. Sì, sì. Dunque, se potesse andrebbe, voterebbe Bersani, diciamo, questa è la realtà. Cioè. Poi, sai, non credo che andrebbe alle cene del Bilderberg. No, Renzi lo vede più ma vicino. Renzi, sicuro, Renzi proprio va lì a parecchia. Ma guardi, meglio ma è scontato che è scontato che Storace sia più vicino a Bersani. Bersani è un uomo di partito, Renzi è uno italiani. Ma sì, vabbè. Storace, grazie. Saluti. Buona serata. Di quale città? Buona serata, grazie. 800 24 0024, Massimo da Torino, buonasera Massimo. Storace, anche simpatico, peccato che faccia politica, però è simpatico. Peccato per avermi politica. Richiamato e complimentissimi. Vada veloce. A fare Massimo, vada divertire veloce. Con le schifezze, ecco. Grazie. Allora, io vorrei soltanto una cosa rapidissima. Bersani sta facendo veramente un atto da puzzone, perché sta facendo strame dei diritti costituzionali. Ma in che senso? Vabbè. Scusi, in che senso? Ma su che perché campo? Perché non si può impedire a un cittadino italiano di andare a esprimere la propria idea con un voto soltanto perché non è andato a votare la volta precedente. Scusi un attimo, non c'entra niente la Costituzione qui, sono regole interne ai partiti. Poi io sono favorevole alla massima partecipazione possibile, infatti, Bersani e altri no, ma non c'è problema, la Costituzione non c'entra nulla qui, non c'entra niente. Un partito che si ritiene democratico, non vedo perché scusi Massimo, un partito potrebbe regole non democratiche. Ma non c'entra nulla, un partito potrebbe anche decidere di far votare solamente gli iscritti. Sarebbe benissimo, sarebbe molto più chiaro. Sì, ma quello è vero, ma un partito, ma la Costituzione non c'entra nulla, il diritto al voto, il diritto alla partecipazione, non c'entra assolutamente niente. È un'iniziativa di coalizione, ho qualche dubbio. Comunque. Eraldo Isidori, un mito, una leggenda, deputato leghista, si parla di carcere e lui in dialetto marchigiano dice "I sta in carcere, deve restare in carcere". Io non lo so fare molto bene, però ho sentito l'originale. Il carcere è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza. Si deve scontare la sua pena per scritta, che gli aspetta. Lo sapeva prima fare il reato. Io ritengo come Lega di non uscire prima della sua pena irrogata. Grazie. Beh, ma è talmente essenziale nella sua, come dire, nella sua esposizione, che da un certo punto di vista è il numero uno questo leghista. Ma che cosa gli vuoi dire? Lo abbracci fortissimo. Sì, perché, ma uno per stare, però devo dire la verità, uno queste cose le può sentire da Annarella, dalla mitica Annarella, che però non è in Parlamento. Perché uno io deve scontare la pena e non può uscire, il caso non è in albergo. Ma neanche Annarella. Capito? Comunque. Eccoci qui, andiamo a Fabiola Perugia, buonasera. Sera. Dica. Dica, no, volevo portare il mio contributo di partecipante alle primarie. Sì, e allora? Perché ne so, io sono andata, mi ero anche preregistrata da brava, però non avevo stampato poi il PDF. Ha votato o non ha votato alla fine? No, ha votato, e ma allora? Anche facilmente, solo che della mia preregistrazione non fregava niente a nessuno fondamentalmente. Dalla sua preregistrazione, sì, perché lei si poteva registrare anche lì in realtà. Sì, sì, anzi, però loro non è che avessero modo di riscontrare che io mi ero preregistrata. Loro avevano la lista di tutti i... Vabbè, allora che ci vuole raccontare, oltre al fatto che non serviva la preregistrazione? No, nel senso che, io sarei per allargare la base elettorale, nel senso, per quanto mi riguarda, come elettrice, anche diciamo simpatizzante, se nel secondo turno ci sono altre persone che vogliono andare a votare, perché no? Va bene, grazie. Damiano da Cosenza, buonasera Damiano. Buonasera. Vada. Auguri per la trasmissione, complimenti. Le volevo solamente dire che secondo me è sbagliato allargare la base elettorale in questo momento, perché è come si partecipasse a una competizione calcistica e andando avanti si inseriscono delle nuove squadre a fare il gioco. Cioè, secondo me Renzi sbaglia categoricamente. Stasera ha preso il tapiro d'oro per la questione delle regole, il tapiro di Striscia, che secondo me gli ha voluto fare un favore. Questa è la mia interpretazione. Cioè, stasera Staffelli gli ha consegnato il tapiro d'oro per le regole. Non riesco a capire la motivazione, magari dopo riusciremo a prendere qualcosa. Però secondo me è un favore a Renzi, è una cortesia a Renzi. Questa è la mia interpretazione, forse un po' troppo dietrologica. Ma potrebbe essere. Perché che c'entra? Cortesia. Scusa, perché il tapiro per le regole? Perché si è fatto fregare in questo senso? Loro in genere lo danno, sì, perché quando uno fa una castronata o perché si fa fottere, quindi però può essere che tu abbia ragione. No, ma nel senso. No, dubito che Striscia la Notizia si occupi degli equilibri del Partito Democratico. No, però magari Ricci, no, magari a Ricci sta simpatico Renzi, dice facciamolo passare su Striscia, che è un programma popolarissimo, anche con il tapiro. Non passi per cretino col tapiro, dipende naturalmente, ma in questo caso no. E intanto fai una bella comparsata Striscia la Notizia, programma molto visto, proprio 2 giorni prima delle primarie, del ballottaggio, 3 giorni prima, insomma non è male, Allora Damiano che dice? Vabbè, sono dietrologico su questo, troppo dietrologico. No, stavo dicendo che è giusto che chi ha scelto e ha votato nel primo turno delle primarie per l'uno o per l'altro, oggi vada a riconfermare chi vuole candidato a premier nella coalizione del centrosinistra, perché altrimenti è come se qualcuno si appropriasse indebitamente di una scelta che è stata già fatta in precedenza. Oltretutto c'è stato tantissimo tempo per potersi registrare. È un'interpretazione. La mia è che siccome la platea si è ampliata rispetto alle previsioni e Bersani comunque ha vinto, non vedo quale sia il timore, la paura. Cioè, se si registrano 400.000 elettori in più, 500.000 in più, 300.000 in più, 200.000 in più, non cambiano le proporzioni. C'è come la presunzione, cioè c'è come la non so, la sensazione che qualcuno pensi che si vanno a iscrivere solamente i renziani o quelli che vogliono votare Renzi. In realtà non è così, cioè si possono andare a iscrivere in massa anche quelli che magari votano per Bersani e non hanno votato per Bersani. Sì, assolutamente. No, non è una questione di paura, è secondo me è una questione di regole, cioè una volta stabilito una regola. Sì, ma la regola è stata interpretata. Adesso è stata interpretata. Certo. No, nel senso della giustificazione, che ci deve essere qualcuno che decide se la tua, come dire, la tua assenza ha avuto un senso oppure no. Cioè, ha avuto una perché se io dico semplicemente per motivi indipendenti dalla mia volontà, secondo me dovrebbe bastare, per altri non può bastare solamente questo. Allora, secondo me bisogna fare un distinguo, perché può votare al secondo turno, cioè al ballottaggio, chi si è registrato, non chi è andato a votare. L'operazione di registrazione è durata per un sacco di tempo. Ho capito, non è stata fatta in un giorno. Ho capito, ma io, guarda, se vuole ripeto la regola, che è stata interpretata però successivamente. La regola è stata interpretata successivamente in senso restrittivo. Interpretata? Oddio, ma lascia perdere, non ci sono uomini di Renzi Già tu già sostenendo, ma ecco, a questo volevo arrivare, a questo volevo arrivare, perché già tu sostenendo, no, te lo dico in 30 secondi, già tu sostenendo questa roba, metti il sospetto che il collegio dei garanti, è proprio berlusconiano come ragionamento, ma non c'entra niente il collegio dei garanti, tramano, che questi ma tramano, no, contro Renzi, tramano contro Renzi, hanno fatto le primarie, ha vinto Bersani al primo turno con una differenza, ma non stanno tramando, mettono ostacoli alla, in maniera secondo me ridicola, ad un ampliamento della partecipazione, punto, al secondo turno, basta, solo questo, perché temono che l'ampliamento della partecipazione possa danneggiare Bersani, questa è la realtà, ma scusami, e possa favorire, ma c'è una legge normale che dice che il oddio, la legge non è ma perché sei fissato su questa giocate, cosa fate perché non è comunque un giochino. Sebastiano da Trieste, gioco. Sebastiano, se avessero fatto subito le regole molto chiare, sarebbe stato risolto tutto. Siccome sono rimasti questo nell'ambiguità, nell'ambiguità, su questa ambiguità succede un casino. Sebastiano questo da Trieste. Oh, Cruciani, buonasera. Dica, dica. Allora, senta, io domenica si gioca una semifinale che in pratica è una finale, no? Per l'elezione del Presidente del Consiglio. E il PD, tra le altre cose, sta crescendo, soprattutto relativamente agli altri. Bene, sono le migliori condizioni, secondo me, nelle vicende umane che avvicinano poi alla fine del PD. Ma non mi pare perché proprio, voglio... Sebastiano, se c'è qualcosa che non sta finendo. Ma io sono convinto, invece, vediamo alla fine, quando vediamo chi vince, vediamo in tutti i due casi chi vince, è molto probabile una scissione, dal mio punto di vista, naturalmente. Non credo proprio, Sebastiano. Nessuna scissione. Non credo proprio. Adesso, la sicurezza di Parenzo, la sicurezza militante di Parenzo, che dice nessuna scissione come un dirigente qualsiasi, nessuna scissione. Ma perché ho parlato con molte, facendo il giornalaio, sì, ho parlato con, non il giornalista, il giornalaio, sì, ho parlato con molte di persone sia di una parte che dall'altra, sì, e anche se uno non fa il giornalaio ma ragiona semplicemente con la testa, ecco, e vede quello che ha detto, ecco, e vede quello che ha detto Renzi domenica sera da Firenze, ad esempio, capisce perfettamente che non ha nessuna intenzione di fare nessuna scissione, di guadagnarsi quello che farà è il leader dell'opposizione interna, vabbè, se mai. Lucio, vabbè, da Milano, vabbè. Lucio da Milano, buonasera. Così? Luciani. Dica. Le volevo fare i miei complimenti per quando c'è stato quell'oltraggio di Sgarbi nei suoi confronti, nei confronti di sua madre che l'ha fatta un'offesa. Lei ha dimostrato una grande nobiltà e una grande signorilità. Vabbè, perciò, andiamo avanti. Sì, ecco, non mi tratti male perché altrimenti mi emoziona. Le volevo parlare di Emilio Fede, io lunedì sera gli ho telefonato e poi non sono riuscito a mettere sì? in contatto. Per me il signor Emilio Fede dovrebbe tranquillizzarsi un attimino e abbandonare un po' la situazione. A 83 anni non si può ancora pretendere di creare un movimento e via discorrendo, si deve ritirare in buon ordine, andarsene a giocare al casinò le sue ultime 1.000 lire e di vergognarsi per quanto ha fatto nei confronti del signore De Mora quando ha avuto quel prestito di 3 milioni di euro che gli ha chiesto 1.5 milioni di euro, così dicono. Dunque il suo consiglio a Fede qual è? Di vergognarsi e di ritirarsi in buon ordine, che c'ha la sua bella età e punto. Va bene, grazie. La ringrazio. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola via, si svegliano per me. Parenzo, non ti sei ancora vergognato di aver detto ieri che Alessandro Sallusti era in una prigione dorata? Non ti sei ancora vergognato di quella frase oppure la ribadisci con forza? Dimmi la verità. Io mi vergogno perché Sallusti è finito in galera. Vabbè, ma quello lo sappiamo no, come no, la pensi. No, a differenza tua mi vergogno. Io ho detto semplicemente che in casi eccezionali. Ma guarda. No. Tu vuoi giornalista in galera, io non voglio. Non ho detto questo, sei pazzo. Io non ho mai detto una cosa del genere. Non redattore di nessuno. Io non ho mai. È giusto. No, io ho detto. Mi fai parlare o no? Io ho detto non in questo caso. Non in questo caso, ovviamente, perché l'articolo tra l'altro non ha nemmeno scritto lui. Non in questo caso, ma secondo me, il mio modestissimo parere, in casi eccezionali di reiterazione del reato e di insistenza, e in casi clamorosi dove si produce un danno, perché le parole possono produrre anche danni mortali, come sanno tutti, si può prevedere in casi eccezionali, si può prevedere anche il caso. Io questo Bravo. Dico, non dico che deve essere escluso per forza, perché a me la casta dei giornalisti non mi piace come la casta dei politici, hai capito o no? Io dico di no. Vabbè, invece, e poi hai detto però poi ribadisco, ti ribadisco se ti piace sentirlo, sì, te lo ripeto, che c'è una differenza tra scontare una pena, che è sempre una pena, dentro una casa molto bella, a quanto hanno scritto i giornali, e scontarla in un posto orrendo. Ma che c'è? Ma questo è banale dirlo, è ridicolo. Una è una prigione dorata, un'altra è una prigione. Vabbè, fine. Mara Maldeggi su questa cosa, benissimo. Abbiamo con noi Alessandro Sallusti, buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Allora, oggi qualcuno ci ha detto, ho ricevuto degli sms durante la prima parte della trasmissione, che lei era avvistato dalle parti del giornale, ma forse hanno le traveggole o no? Non lo so, può essere. Come può essere? Scusi, ma lei non è uscito? Non è agli arresti domiciliari, ma scusi. Come? Ma è domani mattina alle 11 il magistrato di sorveglianza insieme al mio avvocato stabiliranno tutte le restrizioni. Perché... Ah, cioè lei ancora può uscire in realtà? È evaso praticamente oggi. Perché non ci sono ancora le restrizioni, quindi tecnicamente mi spiace, ma non sono ancora evaso. Io la penso, devo dire che la penso come il dottor Crucianni sui giornalisti, ma non sulla reiterazione. I giornalisti devono andare in carcere qualora sia comprovato il dolo e la malafede, cioè che uno pubblica una cosa falsa sapendo che è falsa per danneggiare qualcuno. Sì. In quel caso io sono assolutamente favorevole al carcere. Ah, dunque ci sono casi in cui lei è favorevole al carcere? Beh, se uno pubblica un falso sapendo che è falso per danneggiare qualcuno, io credo che quello sia un reato molto grave, per il quale non mi stupirei del carcere. Infatti. Io dico questo da tempo, che escludere il carcere, le parole, le frasi, gli articoli possono portare, come Sallusti sa benissimo, al periodo di Tangentopoli, possono portare anche a suicidi, a distruzioni di vite personali. Sì, però guardi che per nessun reato si va in carcere per colposità, cioè anche se io purtroppo spero di uccido una persona ma senza la consapevolezza di farlo, perché mi scendo dal marciapiede, sono in macchina, o perché non vado in carcere, perché ci vuole la volontarietà del male che tu fai a qualcuno per andare in carcere. Oppure la reiterazione continua del reato, cioè se tu scrivi delle infamie su qualcuno in maniera ripetitiva per 2 anni e si prova che tu hai scritto il falso e quella persona magari si ammazza, secondo me è giusto pure che uno va in carcere. Assolutamente, sono d'accordo. Parenzo, hai capito? Io però non ho capito una cosa. Lei in questa maledetta tra virgolette casa che ormai è entrata nel mirino. Guardi che io non sono a casa Sant'Anché, io sono a casa mia, quindi non so. E allora perché hanno detto che lei è a casa Sant'Anché? Scusi. Ma perché vivendo io con l'onorevole Sant'Anché, col quale ho una relazione pubblica, e secondo lei due persone vivono insieme, immagino di sì, no? Due persone che hanno una relazione, ma io sono a casa Sallusti, non sono a casa Sant'Anché, quindi... No, ma scusi, c'è un equivoco qua, quando uno dice a casa Sant'Anché, non dice a casa... No, non sto giocando con le parole, io sono a casa Sallusti, se a casa Sallusti c'è anche la signora Sant'Anché, è molto... No, d'accordo, ma è quella ma la casa è di proprietà dell'onorevole Sant'Anché? Ma non so, faccio una visura camerale e veda di chi è di proprietà. Io non so se lei è proprietario della casa dove vive. Io credo che dove vive lei si chiama Casa Cruciani, almeno che non sia ospite o mantenuto da una signora, signorina. Ma è un mantenuto quello lì. Quindi, è un mantenuto. Io sono a casa Sallusti. Ma è la famosa casa dietro Corso Vercelli che è stata immortalata in questi giorni, sì o no? È quella casa lì, certo. Che allora è casa Sant'Anché, su, dai, diciamo. La verità. Ma lei può fare lo spiritoso finché vuole. Ma lei può scherzare finché vuole. Io su questo non ho mai scherzato. Se uno partecipa a questa trasmissione scherza. Io non ho mai scherzato su questo. E accetta di scherzare. Se lei si considera un mantenuto perché vive in una casa che non è di sua proprietà, lei è mantenuto dal proprietario di casa o dalla proprietaria di casa. Ma lei mica ha detto che lei è un mantenuto. Mica ho detto che lei è un mantenuto. Ma figuriamoci. Insomma, uno che vive e dice, dove vivi? A casa Sant'Anché. Di proprietà dell'onorevole Sant'Anché, ma non c'è niente di male. Faccio una visura camerale, magari scopre anche delle cose interessanti, non mi sembra che gli ascoltatori siano appassionati. Ma assolutamente. La proprietà della casa dove vivo con l'onorevole Sant'Anché. E perché no? Al di là di questo, direttore, lo consideri anche tu una prigione dorata? Questo è poco male. Su questo capisco il gioco e ci sto al gioco, se no non avrei accettato di venire con voi. Sì. Ma quello che non capisce è che È vero che vogliono evitarmi, e non è detto che ci riescano, la violenza fisica dell'impatto con un carcere, ma perdere la libertà, cioè non essere più padrone di quello che dei tuoi spostamenti e delle tue cose, è una violenza psicologica. È una pizza, che tu puoi vivere anche in una suite del grande hotel, ma se tu devi chiedere il permesso per comprare le sigarette o non puoi ricevere un tuo amico, c'è poco da scherzare sul dorato. No, ma infatti la differenza che fa Parenzo, Parenzo dice è meglio quello della Stamberga, ma che c'entra? Ma quello è scontato. Ma non è questione, ma guardi che il meglio lo dice lei. Io, siccome sono nelle stesse condizioni di 24.000 detenuti che sono in carcere, nelle mie stesse condizioni giuridiche, io non ho chiesto la prigione dorata, come la chiamerei, io ho chiesto di andare in carcere perché qualcuno in questo paese si deve prendere la responsabilità di quello che decide. Hanno deciso di mandare lei sta pagando di persona e quindi le domande fa una grande battaglia. Ma perché devi aggiungere dorata? Non c'entra niente dorata, non c'entra nulla. Mi permette di fare una distinzione tra chi sta a non la devi Regina fare, Celi, non c'entra nulla. Ma Regina Celi sì, Regina Soglio. Oh mamma, fammi dire una cosa, oppure sta all'H Laurenzia, ai domiciliari all'H Laurenzia, come si chiama lì, quel posto? Vabbè, lascia perdere, insomma, uguale. E nelle periferie tenere della città, e chi invece, ma per sua fortuna, sta sempre ristretto, ma in una casa meravigliosa. Scusi, guardi, che non è che se lei dovesse, non glielo auguro, ognuno sta ai domiciliari a casa sua. Quindi non è che la mia casa è dorata, non è dorata, sono a casa mia. Poi c'è qualcuno, è una bella che... casa, tranquillo, servito e riverito, ma ormai va benissimo. Sono a casa, penso che sarà bella, non lo so, a meno che non viva in una casa brutta. Ognuno non è che c'è differenza, dice no, ma questa casa è più bella. Beh, più bella forse perché comunque chi l'ha pensata ha avuto più gusto di altri, ma non mi sembra un problema. No, io sono a casa mia e non posso andare in altre case, quindi... Scusi un attimo, Bauro, che ha fatto quella vignetta, cioè di tutte queste vignette, cose su Twitter, non so quanto le ha seguite di queste ore, cos'è? Secondo me, guardi, quando uno fa ironia, va bene tutto, vanno bene anche le cose più turpi, le cose più oscene, magari dipende chi le fa, perché se le fa Bauro, che di mestiere fa quello, va bene, se le fa qualcun altro che magari si ammanta di essere una persona un po' più seriosa, no. Per esempio quella vignetta di Bauro con la Santanchè, la frusta, l'ha vista quella roba lì sul servizio pubblico? Dire, in quanto vignetta io sono per la libertà di espressione, figurati se non sono per la libertà di satira. Alcune le trovo anche che strappano un sorriso. Credo che quella di stamattina dice adoro il sadomaso là, quella no, adoro il sadomaso, quella l'ha vista, adoro il sadomaso. Sallusti chiede gli arresti domiciliari alla Santanchè, adoro il sadomaso con Santanchè che la frusta. Comunque vabbè, insomma, alcune le hanno strappato il sorriso, sì. Sì, assolutamente. Io sono una persona noiosa. Però no, perché sei incazzato? Perché sei incazzato così con la stampa per quell'articolo là che ha descritto gli interni? Perché quella in questa casa, a casa Sallusti, vive anche una persona minorenne di cui è stato indicato dove dorme, come dorme, dove sono state indicate le pareti dove ci sono appesi dei quadri di valore, sono state indicate le ubicazioni. Io credo che questo non sia soltanto una violazione della privacy, ma è una il figlio potrebbe avere ripercussioni da questa cosa. Sono elementi sensibili che vengono messi a disposizione anche di malfattori che peraltro hanno già tentato in alcune volte di entrare in casa. Allora io lo trovo un esercizio, non è un esercizio giornalistico, anche questo è uno stupro, perché dire dove sta appeso un quadro di valore, su che parete, ma fatto apposta secondo lei, fatto apposta per me, oppure semplicemente per volontà di descrivere una situazione? Lei fa il giornalista, quando ci sono dei dettagli su qualcuno, insomma anche lei le sarà capitato di... Ma scusami, ma io ricordo un articolo che fecero, non mi ricordo se sul giornale o sul libro, potrei sbagliarmi, ma ricordo un articolo quando una firma autorevole del giornale diretto dal direttore Sallusti, ce ne saranno stati tanti, scrisse nei dettagli il super rompighiaccio dell'ingegner De Benedetti di tasca, in cui addirittura disse no, l'ingegner De Benedetti ha dentro addirittura un canaletto. Se un giornalista ha un dettaglio di una casa che è sotto la lente di ingrandimento perché se ne occupano i giornali, lo fa. Forse Lorenzino e Magnifichino uno se lo poteva risparmiare oggettivamente, o no? Ma no, ma io trovo che chi ha scritto, l'ho detto, lo ripeto, me ne assumo la responsabilità, chi ha scritto quell'articolo è un cretino col botto, perché un conto capisco che è un elemento non solo di cronaca, ma anche, se ti versi anche di gossip, descrivere una casa, dire dove uno passa gli arresti domiciliari. Entrare così in profondità con una serie di dettagli, oltre che inutile, è invasivo. Allora, voglio dire, se io vado in galera perché sostengono che ho violato delle regole deontologiche, beh, questa qui è una violazione, oltre che del buon senso, credo anche di regole deontologiche che garantiscono, il giornalismo si ferma fuori dalle case private, non ha diritto di entrare, neanche di un personaggio pubblico. Personaggio pubblico ci stava una descrizione sommaria. Ma secondo me se uno scrive che dentro ci sono dei quadri di valore, di tequili, tanto chi vuole rubare lo sa. Cioè, No, io non credo che chi vuole rubare lo sa, e non farei lo spiritoso, perché in questa casa negli ultimi 6 mesi sono stati fatti 4 tentativi di effrazione, di cui uno è riuscito. Ma dire la parete e la stanza su cui è appeso il tequila forse è una roba che non aggiunge nulla al lettore ed è meglio evitare. È un'indicazione per i ladri. Sapere dove dorme un bambino minorenne, la mettiamo giù tanto dura, addirittura con uno che finisce in prigione per un giudice del cavolo che non so bene cosa ha fatto, poi invece su un ragazzino minorenne si può scrivere quello che si vuole, perché tanto è il figlio della Santanchè. Allora non facciamo gli ipocriti. No, sul bambino, sul bambino devo dire, no, sul bambino minorenne. Ma questo... i minorenni sono protetti più del Papa, sono protetti i minorenni. Sì, sì, no, su quello, dire. Allora io vorrei che l'ordine dei giornalisti dicesse questo qua, scusami, ma perché hai fatto questa cosa? Non succede nulla. Ma se avessi scritto io di un minorenne sul mio giornale, ma ha scritto che ha un soprannome, ha scritto che ha un soprannome. Ma ora sei già radiato. Ha scritto che ha un soprannome, non è che ha scritto che è un delinquente. Ha scritto anche dei dettagli della sua vita privata in questa casa. Senta, anche quello. Senta, Bruti Liberati, lei una volta ha detto una cosa interessante. Erano veri o no i dettagli? Perché se erano veri... Vabbè, ma chi se ne frega se erano veri o no? Dai, su, adesso, David, se ci mettiamo qui a discutere, sì, possiamo scherzare sul bagno di Madreperla, là, le cose... Ma no, ma infatti, certo. Se vogliamo, possiamo maramaldeggiare quanto vogliamo. Ieri abbiamo letto tutte i tweet, anche di autorevoli giornalisti che dicevano è meglio e peggio il 41 bis... è meglio il 41 bis di stare a casa Santanchè o comunque a casa Sallusti. Ne abbiamo letti tutti, anche di Paolo Madron e di altri, figuriamoci. Non è un problema, non ci siamo fatti mancare niente ieri, sempre. No, ma figuriamoci. Ma Bruti Liberati, è vero che proprio non la vuole, cioè proprio il suo obiettivo è proprio quello di, anche se una volta detto, anche se glielo dice Napolitano, il carcere niente. No, glielo dice Napolitano, non giriamo la frittata. Cioè? Credo che a Bruti Liberati di me non gliene posso fregare di meno. Bruti Liberati, lo dico senza averne prove perché sono cose che non puoi provare, ma mi risulta che Bruti Liberati abbia ricevuto forti pressioni, se non addirittura indicazioni, dal presidente Napolitano, dal ministro Severino, insomma, di evitare a qualsiasi costo di mandarmi in carcere, perché sarebbe un'immagine che le istituzioni italiane non sarebbero in grado di reggere di fronte all'opinione pubblica mondiale e a tutti i salotti che ma non perché è Sallusti, ma in carcere anche lei, un direttore di giornale in carcere per un reato di opinione non commesso da lui. A proposito di carcere, io lo risentirò all'infinito, il mitico Eraldo Isidori, deputato della Lega, che oggi nella discussione in cui si parlava anche del carcere dei giornalisti, credo, ma soprattutto del decreto svuota carceri, di altre cose ancora, se ne è uscito in questo modo, che è una frase semplicissima, però con quel dialetto marchigiano è meraviglioso. Il carcere è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza. Si deve scontare la sua pena per scritta, che gli aspetta. Lo sapeva prima fare il reato. Io ritengo, come Lega, di non uscire prima della sua pena irrogata. Grazie. Non si deve uscire prima della pena erogata. E che ne pensa Sallusti di questo? Beh, i leghisti lo volevano in galera. No, ma io i leghisti li adoro. Però volevo dare una notizia in anteprima alla Zanzara, al dottor Parenzo. Che questa storia non finirà nella casa dorata della Santanchè, secondo alcuni, o in casa Sallusti, secondo me. Non credo che finirà così. In che senso? Vi dico che non finirà così. Cioè, ci sta dicendo? Io vi dico che non finirà così. Cioè a casa Santanchè barra Sallusti, cioè non che cioè il giudice di sorveglianza respingerà la richiesta di Questa è una sua possibilità, questa è una possibilità, ma ce ne sono anche altre. E quali sono le altre? Che lei va in carcere da solo? Non credo. Cioè... Vediamo. Io vi dico che non finirà così e mi sembra che fino adesso di aver mantenuto le... Sì, quello è bene. Però io le dico che facciamo le diverse così, possibilità. Vediamo tre possibilità. Tra queste tre c'è quella vera. Quali potrebbero essere le possibilità? Mi dica. Una è che lei va in carcere perché non viene accettata, diciamo, la decisione. Vabbè, che... quello è una decisione della magistratura. Però non mi sembra che lei preveda questa conclusione. Beh, insomma, dopo quello che è successo ieri alla Procura di Milano è una possibilità più concreta. C'è l'opposizione dei PM che sono contrari alla decisione di Bruti Liberati. Tra l'altro, lei è quasi d'accordo con questi PM, paradossalmente. No, sono assolutamente d'accordo. Infatti. Nel senso che non capisco perché deve avere un trattamento diverso di 24.000 carcerati o imminenti carcerati. Cioè, Bruti Liberati attraverso Napolitano, in sostanza, l'ha resa un privilegiato. Qualcuno ha scritto oggi che è furbissimo Bruti Liberati, perché ha praticamente, è vero, impedito il carcere a Sallusti, ma nello stesso tempo l'ha fatto diventare una sorta di simbolo della casta dei giornalisti protetta, è vero? Ecco, non ce la farà. Io gli annuncio che non ce la farà. Non ce la farà. Dunque lei andrà in carcere, questo ci sta dicendo che va in carcere. Come ci va? In che modo ci va? Ce lo può dire? No, ma non perché vuole fare il misterioso segreto. Io le dico che così non finisce. Ma lei ha paura di andare in carcere? Assolutamente no. Non ha paura. In un certo modo lei vuole andare in carcere, cioè per creare un caso. Non è che io voglio andare in carcere. Io voglio che si prendano la responsabilità di quello che hanno fatto. Hanno fatto una porcata, vogliono lavarsene le mani e trovare delle scorciatoie, sì, e fare pagare a me le scorciatoie, che siamo qui a parlare di Casa Santanchè invece della libertà di espressione dei giornalisti. Ci stanno riuscendo, sì, ma non hanno fatto i conti fino in fondo. Cioè lei farà di... io le dico che faranno i conti fino in fondo. Lei farà di tutto per essere come quelli che stanno in galera, che sono nella sua stessa situazione, così? E vorrei anche vederlo, perché sennò domani come faccio a scrivere sul giornale che un politico ha un pass per il centro che un comune cittadino non ha? Non mi vogliono arruolare nella casta dei privilegiati, io le dico che è un'operazione che non riuscirà. Ma possibile? Lei ha visitato recentemente il carcere di Padova, so che è rimasto molto colpito da questo, su questo sì, Feltri la pensa in maniera diversa da lei, l'ha invitata anzi a arrivare anche a un accordo con quel giudice, lei ha rifiutato quell'accordo di dare i 30.000 euro, so che su questo c'è una divergenza tra di voi molto forte. Però, insomma, sul carcere no. Possibile che lei non ha paura di andare in galera e passarci non so quanto tempo? Ma c'è una paura blu di andare in galera, cosa c'entra? È ovvio che è una paura blu di andare in galera, ma ho più paura... ho molto più paura che a mio figlio possano fermarlo per strada e dire: tuo padre è un delinquente abituale, per di più fa parte di una casta di privilegiati, e questo non glielo permetto. Parenzo, che vuole essere sgradevole? No, fammi essere sgradevole fino in fondo, perché quello che il ruolo che tu mi attribuisci, che mi prendo volentieri. No, fino ad oggi io sono felice della battaglia di Sallusti sulla questione del carcere, che adesso è sensibile. Fino ad oggi, ma fino all'altro ieri, il suo giornale e le campagne di stampa che lui faceva mai una volta hanno posto il problema dell'amnistia e dell'indulto. Anzi, quando il governo Prodi propose l'amnistia, ma infatti non sta proponendo l'amnistia e l'indulto. No, ma non me ne frega niente dell'amnistia e dell'indulto. La questione è il carcere dei giornalisti, non l'amnistia e l'indulto. No, un momento, perché tu hai detto poco fa che è andato al carcere di Padova e è rimasto sconvolto dal sovraffollamento, dalla questione delle condizioni dei detenuti. Io mi agganciavo ma non questo. È che l'unica soluzione sia l'amnistia e l'indulto di fronte all'affollamento hanno delle carceri. Hanno fatto campagne di stampa fottendosene dei detenuti, vabbè, questa è la tua solita... I detenuti, immediamente, a parte degli errori giudiziari, i detenuti devono stare in carcere, cioè. Mediamente devono stare in carcere, dice Sallusti. Parenzo, non è che un detenuto può stare in un albergo 5 stelle, un detenuto sta in carcere. Scusi un attimo, ma se lei potesse andare a votare domenica per le primarie del centro-sinistra, chi potrebbe? Beh, Renzi tutta la vita, ovviamente. Renzi tutta la vita, ma io spero che vinca, è impossibile, ma spero che vinca Renzi, perché attraverso una vittoria di Renzi questo paese si potrebbe normalizzare, nel senso di avere finalmente una socialdemocrazia moderna, addirittura tendente al liberale. Questo l'ha detto Berlusconi, però. No, no, questo l'ho detto io in tempi non sospetti. Berlusconi ha copiato, ha copiato. Ma non è che l'ha detto Berlusconi, no, non è che ha copiato, è una cosa evidente, voglio dire, è una cosa evidente, ma è un anno che io dico che il futuro leader dei moderati italiani, ma non a questa elezione, dopo l'elezione, sì, sarà o Renzi o qualcuno come Renzi, capace di tenere insieme i socialdemocratici della sinistra e quindi allearsi con i liberali del centrodestra. Ma al giornale siete tutti per Renzi, a parte lei e Feltri, ma in generale io so un sacco di gente o è andata a votare o voterebbe per Renzi, redattori. Beh, ma mi sembra molto coerente questo, non che io voglio andare a votare perché è da furbi andare a votare in casa del nemico, è una manovra scorretta, ma è evidente, proprio per quello che sto dicendo, è evidente che se uno ha a cuore un minimo, una stabilizzazione del paese, spera che vinca Renzi. Se vince Bersani ci risiamo con la guerra civile, Bersani e Berlusconi, andiamo avanti altri anni a darcele di santa ragione e non succede nulla. Ma lei dunque su questo, perché oggi Feltri ha fatto un'intervista a Italia Oggi, se non sbaglio, ha detto che Berlusconi deve andare a casa, lei su questo è d'accordo oppure no? Ma Feltri è maggiorenne vaccinato e può dire quello che vuole sia su Italia Oggi che sul giornale, nessuno gliel'ha mai impedito. Io non sono d'accordo su questo, nel senso che non ci sono le condizioni perché Berlusconi vada a casa al momento. Se vince Renzi è un'ipotesi che si può prendere in considerazione. Se vince Bersani non vedo perché consegnare senza lottare fino all'ultimo il paese a una sinistra ancora molto radicale. Cioè, secondo lei se vince Renzi Berlusconi si sente più tranquillo da un certo punto di vista? Beh, anch'io mi sento più tranquillo se vince Renzi, ma proprio per le mie tasche, per le mie prospettive, per lo sviluppo del paese mi sento più tranquillo se vince Renzi. Le tasche è sempre importante per tutti, anche se nessuno lo dice. Ma per le mie, penso anche per le sue. Per le mie, però per me non. Se arriva uno che le abbassa le tasse e le crea nuovi posti di lavoro, probabilmente lei è più contento. Speriamo che lo faccia. infatti Berlusconi non ha abbassato le tasse. Berlusconi ha fatto un disastro da questo punto di vista, la pressione fiscale è pure aumentata, lasciamo perdere. Sono incazzato nero su questo. Anch'io sono arrabbiato con il presidente Berlusconi. Gli ha detto qualche volta? Sì, assolutamente. Ha litigato con Berlusconi su questo o no? Oppure lui ha incassato? Berlusconi non c'è motivo e non voglio dire, non siamo né marito e moglie né c'è un rapporto di lavoro tale da dover litigare. E quindi non è un problema di litigare. Ma che rapporto ha con Berlusconi? Tipo Feltri che un po' lo snobba? No, Feltri completamente diverso. Io col presidente ho un rapporto molto affettuoso. Molto più affettuoso. Lo trovo una persona molto diversa dall'immagine pubblica di questi ultimi anni, ma come dire, me lo tengo per me. Lei per esempio a cena con Di Pietro, come fa ogni tanto Feltri, non ci andrebbe mai? No, perché anche Di Pietro è una persona interessante, non andrei a cena con Di Pietro, non ho queste cose, e trovo molto interessante anche andare a cena con Berlusconi. Parenzo? Però divertente, dipende no. Poi anche dagli invitati, ma mediamente le barzellette, non mi dica, perché Feltri non sopporta le barzellette di Berlusconi, non mi dica che si diverte pure con le barzellette di Berlusconi, sennò mi finisce tutto qui. Devo dire che alcune sono spettacolari. Quali me ne dica una spettacolare? No, io non ho memoria, guardi, non mi ricordo le barzellette che me l'avessero raccontata una mezz'ora fa, non me la ricorderei già più. Tra l'altro la maggior parte delle barzellette di Berlusconi sono su se stesso, cioè sono le barzellette inventate dai suoi avversari, insomma, ma alcune sono veramente esilaranti, ma non è che non la racconto per vergogna, non la racconto perché non me la ricordo. C'è Giorgio Grasso che le sa tutte, adesso devo fare una telefonata a Giorgio Grasso, che è uno di quelli che frequenta Berlusconi attraverso sgarbi, che c'è tu una corte di sgarbi che si porta dietro, che frequenta Giorgio Berlusconi, Grasso. Mitico Giorgio Grasso, venditore d'arte, di quadri, spettacolo, incontro ogni sabato in un ristorante a Milano, mi fa una testa così su Berlusconi, voglio fare un movimento, mi una cosa pazzesca. Vabbè, ma Alfano sugli indagati è stata una cosa, mi dica una cosa su Alfano, questa cosa degli indagati, io sono diventato pazzo su questa cosa di Alfano degli indagati, cioè non sono diventato pazzo, come si fa a dire una frase del genere, Sallusti, una frase sugli indagati? No, è una frase che ha un senso, nel senso, è ovvio che, come dire, sarebbe quella per fare fuori quegli altri, Samorì, Prodo, quelli suoi, però ho capito. Sì, ma ha un senso soltanto se fosse accompagnata da una premessa. Se riusciamo a riformare la giustizia in modo da depoliticizzare la magistratura, non voglio avere nessun indagato in lista. Allora Questa cosa funziona. Ma non l'ha fatto, soltanto non voglio avere nessuno indagato in lista, vuol dire consegnare il potere di fare le liste del PDL alla magistratura, perché indagato significa un avviso di garanzia. Allora vorrebbe dire che io, ovviamente, che sono ben più che indagato, non potrei assolutamente partecipare a nessuna competizione. Ma l'80% politica delle persone che stanno intorno a Sallusti, ad Alfano, è così, cioè Verdini, un sacco di gente intorno a di, ma lo stesso Berlusconi non potrebbe candidare, è una cosa folle, una appunto frase senza senso. Mi sembra una cosa. Scusi, un Bruti Liberati, per concludere, Bruti Liberati è più il suo salvatore o il suo o è un paravento su questo? No, Carnefice no, ma un paravento, cioè uno che segue il suo di sé. È un paravento, e tra l'altro, però, siccome sta facendo una cosa che, come dire, usando il buon senso, oggettivamente è pro Sallusti, nel senso che sta cercando di limitarmi i danni. Io questo personalmente sono grato, se un giorno dovessi incontrarlo glielo riconoscerei, ma il problema è che lui è strumento di qualcun altro e sta tentando di salvare Napolitano e la Severino e la magistratura e non me, e quindi io mi spiace di dover rifiutare degli aiuti, ma purtroppo in questo momento è un mio avversario, nel senso che uno che vuole mettermi in una condizione di debolezza per aiutare i miei carnefici, e questo lo trovo, perché Brutti Liberati, io se volete della zanzara, io gli offro a Brutti Liberati la soluzione della cosa. Qual è? Lui domani mattina offre, convoca una conferenza stampa e dice: questa sentenza nei confronti dei Sallusti è una porcheria, ma non lo può dire, basata su dei falsi, ma siccome le sentenze di Cassazione sono irriformabili, noi purtroppo non possiamo farci nulla se non chiedere di aprire un'ispezione sui magistrati che hanno fatto. E se facesse così, cosa se accadrebbe? Se facesse così, io un minuto dopo vado da lui e gli dico: mi dica che servizio sociale devo andare, smettiamola con questa cosa, e io la libero da ogni problema. Deve dire che la sentenza è una porcheria. Deve chiedere scusa, qualcuno mi deve chiedere scusa di aver detto delinquente, che io sia un delinquente abituale, finché qualcuno che ne abbia titolo non chiederà scusa di quella porcheria, ma possiamo andare avanti all'infinito. Però scusi, Sallusti, le assicuro su questo, che non finirà a casa Sant'Anché. Non finirà a casa Sant'Anché. Però guardi, siccome questo non avverrà, nessuno le chiederà scusa, questo è chiaro. Però guardi che quel delinquente abituale, io l'ho detto più volte alla radio, non è riferito a lei in quanto persona, cioè quel delinquente abituale è perché se uno sempre secondo la sentenza, non sto dicendo che è giusta la sentenza, reitera un reato, benissimo, viene considerato secondo allora, una terminologia allora giuridica facciamo, una allora, terminologia allora, giuridica benissimo, siccome io ho 6 condanne per omesso controllo precedenti a questa non di penali di carcere ma di amministrative, e siccome i direttori di tutti i quotidiani italiani ne hanno da 15 a 28 e glielo posso dimostrare, allora vorrei che venisse messo un editto che dice che Ferruccio De Bortoli, Ezio Mauro, Tizio Caio sono dei delinquenti abituali, perché se De Bortoli ha 20 condanne non è un delinquente abituale, e io che ne ho 7 sono un delinquente abituale, mi spiega dove, di che cazzo stiamo parlando? Non lo so, questo è vero, questo bisogna vedere, ovviamente su questo c'è l'interpretazione in quel caso del giudice in quella sentenza. Ma non è un'interpretazione, ci vuole una legge che dice fino a 7 non sei delinquente, dall'8 sei delinquente. Ma se dall'8 sei delinquente e tutti i direttori italiani hanno più di 8 però condanne, è una terminologia giuridica che non è che vuole indicare la delinquenza. Io voglio vedere il giorno che non le auguro che l'applicano su di lei se parla di terminologia. A me mi danno del delinquente ogni giorno, figuriamoci. Non è che anche a me danno del pirla ogni giorno, ma lo trovo un giudizio per certi versi anche legittimo. Ma delinquente abituale in una sentenza di Cassazione è tutto un altro discorso. A presto, io non ho capito se oggi era intorno al giornale. Sì, era intorno al giornale. Era intorno al giornale oggi? No, non era. Ma come no? L'hanno vista. Cioè, ma guarda, ha violato gli arresti domiciliari, diciamo la verità. No, non ci sono ancora le norme applicative. Non ha violato nulla. È evaso. Grazie, a presto. Non avevo in mano il telefono, caro Parenzo. Non avevo in mano il telefono qui con i messaggi che mi arrivano durante la trasmissione, no? Il mio telefonino. Perché in realtà quello che ci ha raccontato Sallusti, questa possibilità non finirà così, no? La vicenda degli arresti domiciliari, insomma, dell'arresto, della condanna, eccetera, eccetera. Ci siamo dimenticati di una cosa. Cioè, allora, le possibilità sono che lui ovviamente vada in carcere perché il magistrato di sorveglianza decide così, che ci sia un provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica, che però è complicato, ecco. Bisogna fare richieste, eccetera, un po' non, dipende anche lui da chi. Non credo che la chiederà. L'altra possibilità è che scappi. E esatto, io stavo per dirglielo. Perché non l'hai detto? Esatto. Me lo suggerisce l'avvocato Trucco, il mitico avvocato Trucco, il nostro avvocato. Che sta arrivando grande, qui. Grande peraltro. Esperto di queste cose, peraltro. Grande, espertissimo. Espertissimo di criminali, di penale. No, ma ne approfitto, ne approfitto. E poi ti bacchetta. Ecco, è arrivato Trucco. È arrivato Trucco. Vabbè, a casa mia. Ti bacchetta il. E ti bacchetta. Vieni su al quinto piano. Vabbè, prendi l'ascensore, piccola rampa a piedi. Non ce ne frega niente adesso. Ti bacchetta il. No, ho capito, ma ho della gente che sta arrivando a casa. E vabbè, pazienza. Ti bacchetta il direttore Feltri e ti dice tramite me: sia libero che al giornale mi sono sempre battuto in favore dei detenuti. In favore dei detenuti, capito? Io adoro il direttore. Se lui non legge, se non lo leggi, fai silenzio. Adoro il direttore Feltri. Vabbè, ma adesso non essere lecchino a ogni costo, non c'è bisogno di essere lecchino. No, posso tirarti fuori, magari non era diretto, magari all'epoca. No, ma io ti volevo ricordare questa cosa. Non ti volevo dire hai ragione o torto, eccetera. Ti sto dicendo semplicemente che ti sei preso una bacchettata, nel senso che non è che poi c'è la. Ti sto dicendo che non ricordo battaglie furibonde. Ma sono cose diverse. Non è che l'unica alternativa al carcere sia l'amnistia o l'indulto. Ci sono anche altre cose. Per me i delinquenti devono stare in galera. Io sono contrario a ogni provvedimento di amnistia e indulto sempre. Ma io, perché tu sei un reazionario. Ma no, non sono un reazionario, sono contrario a questo, ma sono contrario anche al fatto che uno vada in galera se ha fatto una cosa minima, cioè sono a favore della famosa depenalizzazione. Vabbè, lasciamo perdere, siamo troppo seriosi. Bruno d'Arezzo, buonasera. Avete randellato per anni. Cosa? Randellato cosa? No, quando il governo Prodi, uno dei migliori governi italiani per inciso. Che c'entra il governo Prodi? Propose l'amnistia, ma uno può essere contro l'amnistia e a favore a favore delle condizioni dei carcerati. Non è che l'unico. Ma guarda che sei incredibile, uno può essere contro l'amnistia, io sono contro l'amnistia e a favore del miglioramento della situazione carceraria. È possibile farlo? Sì, è possibile. Per anni se ne sono fottuti. Ma questo è un altro discorso, se ne sono fottuti, ma chi se ne è fottuto? Scusa, chi? Per anni se ne sono. Io non ho visto articoli firmati da Sallusti, ma forse mi sbaglio, ma andrò a vedermi la rassegna stampa, di battaglie furibonde per il miglioramento delle condizioni carcerarie. Non ho visto, ma magari mi sbaglio. Sì, no, ma d'accordo, capito. Bruno d'Arezzo, anzi, chi c'era prima? Chi ho chiamato? Andrea da Milano? Sì, sono io, sì. No, sono Bruno d'Arezzo. Vada. Buonasera. Senta, no, volevo dire questo, che io sono stato e sarò anche domenica prossima presidente di un seggio elettorale delle primarie del PD e che posso testimoniare con... Dica. Posso testimoniare con certezza che al di là del discorso del gioco democratico fra le varie pensieri dentro il centro-sinistra, ci sono stati dei tentativi di inquinamento da parte di persone che appartengono a tutt'altra opinione politica. Cioè, chi ha votato? Lei è stato scrutatore o presidente di seggio lì alle primarie? Presidente di seggio. Ad Arezzo, giusto? Esatto. Ad Arezzo, esatto. Allora chi ha Arezzo è un posto piccolo, dove ma non Renzi troppo. Dove Renzi ha stravinto. Allora io sono in una piccola frazione dove tutti si conoscono. E quindi chiaramente la gente parla la domenica al bar, davanti all'edicola, esprime le proprie idee politiche e molti di questi che hanno sempre espresso opinioni politiche del tutto lontane al centro-sinistra sono venuti a votare e noi ovviamente non abbiamo voluto impedire che questa gente venisse comunque a votare, anche se sapevamo benissimo che venivano comunque a inquinare un voto. Scusi, ma chi sono? Chi sono questi qua? A che movimenti politici appartengono, se appartengono a qualche movimento politico? No, dunque, l'appartenenza è emersa da una persona che è venuta a votare col proprio figlio e vabbè, che ha la una persona di Forza Nuova. Una persona di Forza Nuova è venuta a votare, No. Questo è proprio la cosa certificata. Perché questo vabbè, una persona di Forza Nuova, non mi pare che una persona di Forza... Ha tirato fuori la tessera di Forza Nuova quando gli abbiamo impedito di votare. Ah, non ha votato? Non ha votato? No, lui no. E allora? Il figlio sì. Il figlio di uno di Forza Nuova non è che deve essere forza di Forza Nuova, scusi. Esatto, esatto. esatto. Allora? Ma tanta, nella nostra piccola comunità, sì, tanta gente è venuta a votare quando dopo, per tutta la vita, da anni, andando la mattina all'edicola a comprare il giornale, passando a bere il caffè eccetera, al bar eccetera eccetera, ha sempre espresso e sempre esprime e tuttora esprime opinioni politiche del tutto lontane al centro-sinistra. Vabbè, ho capito, però Bruno, questo non significa nulla. Se lei mi dice che c'è qualcosa di organizzato, cioè Forza no, Nuova della sua frazione in provincia di Arezzo, no, o che no, ne so, Forza Italia o Forza Bubù. No, io non hanno... voglio dire che c'è una cosa organizzata, voglio dire vabbè, però alcune che... persone, molte persone che non sono, che non hanno votato centrosinistra, sono andati a votare. E non lo voteranno. Vabbè, quello che ne sa lei, non è che si vabbè, può fare il processo alle intenzioni. Scusi. Non lo voteranno. Però, scusi, caro Bruno, allora lei che cosa mi sta dicendo? Lei ha fatto il presidente di seggio, che ha votato lei? Io ho votato Bersani. Perché se non sono mai stato... No, ma va bene, lei ha votato Bersani. Ed è che mai votato PC. Lei è andato, ha fatto il presidente di seggio e ha visto molte persone che non hanno votato il Partito Democratico, il centro-sinistra, poi come e fa... non lo rivoteranno. E non lo rivoteranno, anche qui siamo nel campo del processo alle intenzioni, ma comunque non lo rivoteranno, i quali hanno invece votato alle primarie del centro-sinistra. E dice molto lei... probabilmente per Renzi. E molto probabilmente per Renzi. Non mi pare una cosa così strana, a meno che non ci no, sia qualcosa... però è un inquinamento del gioco democratico che avrebbe dovuto essere riservato solo a noi elettori del centro-sinistra. Beh, su questo ha ragione però. No, non è così, ragazzi, non è così. Cioè, sul tema delle... Ma le perché sei Marco l'unico scusate, a difendere questa posso roba? Aggiungere, posso aggiungere un'altra cosa? Io, per motivi di lavoro, sì, giro un pochino fra varie località, e lavoravo a Firenze nel periodo in cui Renzi ha vinto le primarie e poi è diventato sindaco. Sì. Io lavoro in ambito bancario e finanziario. Sì. Allora, le posso dire che io ho assistito a un tantam... Sì. Di persone che sono di opinione politica completamente diversa da quella del centro-sinistra, sì, a un tantame in cui l'uno con l'altro si dicevano: mi raccomando, andiamo a votare le primarie per Renzi, perché questo Renzi ci aiuta a scardinare il centro-sinistra. Va bene, Bruno, ma per carità, ma va bene tutto, io la sua testimonianza la tengo in considerazione, non è una novità, però questo non ha cambiato. No, ma il problema tengo in considerazione la sua testimonianza. No, ma il problema qual è? Qual è il problema? Il problema è uno solo, che o tu hai scritto in fronte sono un elettore di centro-sinistra negli ultimi 20 anni, oppure non capisco qual è il punto, cioè possono partecipare tutti alle primarie, basta che sottoscrivano una cosa, cioè... Ma infatti noi li abbiamo fatti partecipare tutti, anche quelli ad eccezione di questa persona che è proprio, si era presentata per Forza Nuova, sì, certo. Era proprio una cosa indecente e impresentabile. Tutti gli altri che appunto qualcuno addirittura ha espresso proprio quasi disgusto a darci quei 2 euro. E allora perché l'avete fatto votare? Perché l'avete fatto votare? Perché non volevamo offrire occasione per dire che è stato fatto catenaccio nei confronti di possibili... Però lei mi sta dicendo che la vittoria di Renzi ad Arezzo è inquinata dal voto di destra, questo mi sta dicendo. Io le dico che secondo me Renzi avrebbe comunque vinto ad Arezzo. Ah, anche allora, se non ci fosse stato questo inquinamento. Va bene. Io, perché io sono intellettualmente onesto, ma ho capito. Quindi devo dire quello che penso. Quindi secondo me, anche senza questo parziale inquinamento di elettori di centrodestra, sì, sicuramente Renzi avrebbe comunque vinto. Va bene, grazie Bruno. Abbiamo la borsa, poi 800 24 00 24, Andrea da Milano, Alberto da Cuneo, Gabriele da Roma, Carlo da Genova, e poi una grande sorpresa per Parenzo. Torna Flavia Vento alla Zanzara, caro Parenzo, bannata da Grillo. E indovina un po' chi appoggia adesso? Indovina un po' chi appoggia? Da Grillo è passata? Ah? Dai? A Berlusconi. Ma no! Dai, su, chi appoggia? A chi? Dai, è facile, te la metto su un piatto d'argento. Chi appoggia di adesso? Dietro. Non è possibile. Mamma mia, ma come? Ma che ti è successo nell'ultimo periodo? Se non sei più reattivo, ma chi appoggia adesso? Chi appoggia adesso? Chi ne so io, ma se me ne frega qualcosa di Te lo dico dopo. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là. Chissà cosa ha in testa il direttore del giornale Sallusti. no? Chissà cosa in testa per sfuggire alla tenaglia di Bruti Liberati, perché questo ci ha descritto questa sera, caro Parenzo, è la tenaglia di Bruti Liberati, il quale paravento, come dice lui, paravento sotto l'egida, sotto gli ordini di Napolitano, vuole renderlo un privilegiato evitandogli il carcere. Che hai fatto? Hai tirato la cosa del cesso? No, ho chiuso la porta. Perché controlli tutto quello che vai? Ma non lo so, sento dei rumori strani. Sembrava che avessi tirato la catenella del cesso. Non lo so. Cioè... Ho chiuso la porta dell'ascensore. Ma viviamo in uno stato di polizia, signor Cruciani. Ogni cosa che faccio viene attenzionata dall'ispettore Cruciani. No, ma non è questione di attenzionata dall'ispettore Cruciani. È che io sono qui in uno studio radiofonico. Tu sei a casa a ricevere persone e ti fai gli affari tuoi. Questa sono è la differenza. Sono a casa a ricevere delle persone. Comunque, perché ho organizzato una cena con formaggi, vino, eccetera, per assistere allo scontro Renzi-Bersani. Sì. Ho organizzato un gruppo d'ascolto a casa, anzi, se gli ascoltatori vogliono venire, no, meglio che non dai l'indirizzo, meglio che non dai l'indirizzo. Vogliamo sentire Alessandra Moretti, portavoce del Partito Democratico, anzi portavoce della campagna elettorale di Bersani, che canta Bandiera Rossa da noi per accreditarsi come donna di sinistra? Sentiamo o no? Parenzo, non mi dai retta, stai accogliendo le persone, via. No, via, no, via, no, un attimo. Sentiamo. Avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Bandiera rossa trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, evviva il comunismo e la libertà. Zanzara! Mamma mia, non si poteva sentire, riascoltando non si poteva sentire. Dentro il mio giardino. Beh, questa sera un altro endorsement nei confronti di Renzi, prestigioso. Il direttore Sallusti ha detto che lui e in pratica tutto il giornale sono dalla parte di Renzi, Tutta la vita, ha detto Renzi, tutta la vita Renzi, dopo Fede anche Sallusti. Lo ha ucciso definitivamente. Beh, però Storace, ha detto che appoggia Bersani, E questo è l'equilibrio abbattare, mentre l'equilibrio, sì, la barca, esatto. Questo ormai che cosa sei riuscito a trasformare? Flavia Vento, cara Flavia, ti abbraccio fortissimo per quello buonasera, che buonasera, buonasera a tutti, come per, va? Per quello che ti è successo oggi, una cosa assurda, ma perché proprio bannata da quello che, insomma, voglio dire, hai seguito con grande attenzione, uso un termine diplomatico, fino a qualche giorno fa, insomma non è che hai fatto un danno poi a Grillo, perché ti ha bannata? Guarda, io sono rimasta molto male, adesso mi sento come Cenerentola nel castello, sì? E mi sento come se mi hanno chiuso la porta a chiave, la scena che le due lì, le due sorellastre cattive mi hanno rinchiuso nella camera su e non riesco a uscire, perché tra la Santanchè che mi dice cretina in diretta, Grillo che mi banna, allora vorrei capire dov'è la democrazia in Italia, perché uno, non sono una donnetta di strada, sono una persona per bene, vengo da una buona famiglia, mi trattano come se fossi una calalebra, io mi sono... Insomma, sto piangendo, sono chiusa nel mio castello e sto piangendo perché ho mandato i topi a cercare la chiave. Sei un po' eccentrica, questo bisogna dire. Cioè, sei eccentrica, sei esuberante, qualche volta... È un pericolo pubblico. Ma perché un pericolo pubblico? È eccentrica, divertente, è un po' esuberante, nel senso... Va benissimo. Ma va bene, se ad esempio se stasera viene qui a casa mia a cena con un po' di... Ma è a Milano, è a Milano, lasciala perdere. Sono a Milano, Anche se uno si dovrebbe vergognare a portare... La signora Vento quando dice che se parla come twitta c'è da vergognarsi. Uno dice, guardi, ho portato la signora Vento. Cioè, va bene, parliamo di... Ma perché vergognarsi? Non ho capito. Ma lei usa delle metafore qualche volta incomprensibili, dice delle frasi... metafore. Sì, delle metafore, sì. Vergognarci, insomma, si dovrebbe vergognare lei ancora che parla, mi scusi. Ma perché non ci conosciamo, ma vergognare di te, ma lei come si permette? Ma perché si dovrebbe vergognare? Scusa, spiegami. Si vada a leggere Hegel, si vada a leggere Freud. Hegel, si la notte, sogni, faccia dei sogni e si levi la sua negatività dell'occhio. adesso. Ma scusi un attimo, perché lei legge, Hegel, legge Hegel e Freud? Ma che io leggo Hegel, Freud, tutto, sto leggendo tantissimo, anche perché per capire insomma come è fatto questo pianeta ci vuole una scienza non indifferente. Vabbè, e anche filosofia, visto che insomma vergognarsi di una ragazza carina di 35 anni, insomma mi sembra un po' ecco, ma perché siamo Beppe, in Russia, ma siamo Putin. Ma perché Beppe Grillo alla fine l'ha bannata? L'ha capito lei? Perché anche Beppe Grillo, alla fine che fa? Sto con la Salsi, figuriamoci se non lo faceva con me. A lei come la Salsi, dice, no? No, vabbè, non c'entra niente, però sinceramente io ci sono rimasta male. Una ragazza giovane che lo difende in una maniera carina e mi banna da Twitter, manco fossi un topo. O una mignotta qualsiasi, dice lei, no? Cioè, manco fossi una ragazza di strada qualsiasi, in questo senso, dicevo. Purtroppo in televisione, quando uno fa in televisione, è scherzato così. Però io sono una persona seria, lo ribadisco, e quindi non c'ho nessun corvo rapace o nessuna. Ma che è sto rumore? Chi fa sto rumore? Parenzo, sei tu? Come? Parenzo, ma che stai facendo con sto rumore? Che cos'è sto c'è un rumore terribile. Che stai facendo? Ma stai fermo un attimo, 10 minuti, stai fermo. Ma che stai facendo? Si sente un rumore terribile. Cos'è sto rumore? Adesso ho capito, la nuova gag tua, siccome il telefono funziona benissimo e non puoi dire non si sente, vabbè, traffico. Allora adesso ogni cosa che faccio la pipì e non si può fare la pipì, apro una scatola, apro il vino, non si può aprire il vino. Io chiamo la CGIL adesso, e ti faccio un'avvertenza sindacale che pagherai per i prossimi 20 anni. Ma io che c'entro? Anche la pipì in onda. Ma lo sai qual è la notizia di oggi che riguarda la notizia di oggi che riguarda la signora Vento? Sai qual è? Che alla fine fonderà un suo partito. Sì, beh, vabbè, adesso insomma è prematuro, però per come vanno le cose, se no, insomma, volevo pure parlare un attimo delle primarie del PD e sì, dire che... Sì, ma andrà a votare? Andrà a votare? Ma forse sì, guarda, dopo questa cosa forse vado a votare. Beh, questo è interessante, ma scusi, la giustificazione, deve portare la giustificazione, signor Vento. Deve portare la giustificazione, lo sa, no? Beh, vabbè, no, devo portare 2 euro da quello che ho capito. 2 euro sicuro, ma lei non è al corrente del dibattito molto interessante che affascina e sta rapendo tutte le piazze italiane. Cioè, il dibattito è sostanzialmente questo. Cioè, se lei non si è iscritta al primo turno, adesso è un problema. Cioè, dovrebbe chiamare, mandare un fax o una mail all'ufficio provinciale delle primarie, un casino terribile. E poi, cioè, non è che vabbè, si può... Non vada, non si preoccupi, ne parliamo un'altra volta. Non è... Ma lei chi voterebbe? Ah no, ho visto che Renzi la segue su Twitter, è vero? No, ma va, quello è un fake. Ah, è un fake quello? Sì, per forza. Che ha detto Renzo? Che ha detto? No, ho detto per forza. Per forza che... Dai, su, vabbè, per forza. Ma no, dico, ci mancava altro con tutte le cose, allora, che c'è da fare Renzi. Se io un minimo incarico, mi ricorderò di lei. Ma che incarico vorrebbe avere lei, scusi? Che incarico vorrebbe avere? Che ne so, ministro della cultura, che vorrebbe fare? Ministro dell'ambiente vorrebbe fare? Beh, guardi, ci sono riuscite un sacco di persone che veramente era meglio che stavano a casa. E continuano tutti a rubare, io abbasserei gli stipendi dei politici. Vabbè, quello lo dicono tutti ormai. Un'altra strozzata. Perché va bene, a quest'ora la strozzata della Vento, ma va bene, la gente va a casa e tornano a casa, devono cucinare, dico vabbè, sentiamo la strozzata della Vento, va benissimo, rilassa, va bene, usiamola come terapia, così va bene. No, ma guarda che però sappiamo che è così. Io mi sono appassionato a Signora Vento, non so perché, mi sono appassionato a Flavia. Bravo. Vento. Ho una sorta di... Ma mi verrai a trovare al castello fatato delle zucchette, che c'è anche la guardiana che ti aspetta. La guardiana fatato. Chi è? Fatato. Chi c'è? È la maiala. No, la guardiana e la maiala tutte e due insieme o la guardiana corrisponde alla maiala? La guardiana è la maialetta, che è travestita, ma è simpaticissima. Un peluche, ovviamente, è una presa in giro. Certo, certo. Ed è una persona certo. Carinissima, travestita. La maiala. Sì. No, ma no. È una cosa carina, divertente, spiritosa. Ed è una persona veramente carina. Beh, il castello maiala, però mi attrae. Ma dai, la maialina, ha detto, non la maiala. Dai, non fare il solito. Comunque, questo partito, adesso sul serio, facciamo due cose. Se potesse andare a votare, chi sceglierebbe, Renzi o Bersani? Renzi, perché penso che ci vuole insomma una botta di vita, giovane. Sì. Una botta di vita, diciamo, no? Una botta vabbè, di uno giovane dell'età nostra, un'area di rinnovamento. Se vince domenica. Se vince domenica? Ah, vabbè, spero mi dia, insomma. Che vuole da Renzi? Pure da Renzi, no, oltre adesso c'è sta dopo Grillo ci prova con Renzi adesso. Io non ci ho mai provato con Grillo. No, provare nel senso di avvicinarsi, certo, politicamente, in quel senso. Io ho detto lì che il basta dai era un messaggio bellissimo, ho detto soltanto questo. Vabbè, spera che Renzi la coinvolga in qualche modo, no? No, assolutamente no, ho detto che spero che vinca un giovane, punto, non voglio nessuno in carica. Ma ha detto, spero che se vince domenica. No, niente. E sto partito lo fa o no? Adesso vediamo una cosa per volta. Io volevo fare un programma televisivo prima. Ancora, si chiamava Il Castello Fatato. Poi, insomma. Il Castello Fatato. E dove lo vorrebbe fare questo programma televisivo? Il Castello Fatato. Una porcheria assoluta, lo sai, no? Perché la porcheria? Non sai niente. Non ma sai dai, niente la porcheria. Ma adesso stai facendo un'operazione anche poverina di killeraggio rispetto alla povera Vento che vuole fare una trasmissione che si chiama Il Castello Fatato. Ma io immagino quando va a parlare con il signor Gubitosi, penso Gubitosi è una persona seria, non sa chi è la signora Vento, e la signora Vento se va lì Gubitosi, immagino la scena della signora Vento. No. Senta, però io ho 23.000 follower su Twitter che mi scrivono ogni secondo e mi supportano. Un motivo ci sarà, sono, anch'io ce n'ho 40.000, anzi quasi un motivo ci sarà, ma un motivo ci sarà, perché insomma se ero così sfigata però scema, scusa, non mi seguiva nessuno. Però scusa Parenzo, fai la scenetta non di Gubitosi, fai la scenetta con Mediaset. Ah, facciamo la scena come quando vado al signor Crippa, ad esempio, possiamo dire, no? Sì, vai, fai la scenetta. Signor Avento che con la sua macchinetta arriva, va bussa, va dalla segretaria del signor Crippa, c'è la porta e fa: la sera adesso che dice chi è? Ci sono la signora Vento, quella che sta facendo il format sul Castello Fatato. Ho appuntamento con il signor Crippa. Beh, la signora dice, ma veramente lei ha appuntamento con il signor Crippa? Sì, ho parlato, ho appuntamento con Crippa e ribussa. Il Castello Fatato è un grande format. Ma allora, signora, la segretaria prende il tè, dice, signor Crippa, sì, sono Renone con Gofaloniere di Assedio, riga. C'è la signora Vento che parla di un castello fatato. Anzi, sì, prendiamoci 5 minuti di pausa, dice il signor Crippa. Oggi 5 minuti. Prego, la faccia entrare. La signora Vento entra. Dice, io ho 23.000 follower, lei continuerà a Crippa. Ma dice, io veramente ne ho 72. Senta, ma lei può fare lo stregone, vuole venire se me lo fanno fare questo programma? Ce lo vedo bene, lo lei, stregone. Lo stregone, può inventare le questioni magiche. Ma sentiamo, quale sarebbe lo straordinario format Il Castello Fatato? Qual è questo format? Qual è? Ma lei, allora, si parla di che la gente vuole ridere a casa, si è stufata, certo, di vedere cronaca, certo, nera, si è stufata di vedere politici parlare, si è stufata di vedere culi e teste, bisogna fare un programma fatato dove la gente ride, sogna, bisogna sognare, e secondo me i bambini a casa vogliono vedere un programma così, Cenerentola, Aladino, Il Tappeto Volante, Il Castello, e poi canzoni, barzellette, un programma surreale che faccia ridere perché c'è bisogno canzoni di ridere. Canzoni e barzellette. E non ci sono più programmi che fanno ridere. Capito? Questo è il format: canzoni e barzellette, gente che vuole ridere. E lei pensa di voler presentare un programma dicendo queste stronzate. Guardi, secondo me queste stronzate sarebbero veramente carine. Va bene, io l'abbraccio sì, molto forte. Va bene, buona serata, perché macchina che l'hanno ascoltata abbiano messo la pistola di sicurezza. Che succede? Buona serata, perché? Che succede? Dove va? No, dovete andare, no? Dobbiamo andare. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io soy stanco, come una muchachita. Che fai, ridi? Dottore, lo champagne è pronto, lo serviamo a 2 gradi? Aspetta che sono in diretta, che vai, pronto? Lo champagne è pronto, lo serviamo a 2 gradi? No, ma che champagne, è la televisione, dai. Roba da pazzi, guarda, lo champagne. No, adesso cominci, l'amico degli è la televisione. Tu fai sempre, com'è quella frase, fai il frocio con... Come si dice, fai il... Ah, Ricucci diceva al telefono, stai a far frocio con... Però mi riferiscono, io ho qua Twitter davanti, una frase di Lupi, torna Berlusconi, annullate primarie del PDR del 16 dicembre. Non so se sia una... ripeto, sta girando su Twitter questa cosa. Parenzo, stai un attimo attento, però sono le 20:49, stai attento, abbiamo ascoltatori, stiamo per concludere la trasmissione, stai attento un attimo. Potrebbero essere state annullate le primarie del PDL del 16 dicembre. Lo leggo da Dav Blog, ma non so a cosa si riferisca, perché ogni tanto non sono delle cose sono delle cose che avvengono proprio in quell'istante, sono delle cose magari di mezz'ora prima, un giorno prima, insomma, annullate prima il PD del 16 dicembre, Lupi torna a Berlusconi. Adesso non so da cosa venga questa cosa, ma insomma approfondiremo. Vabbè, dove andiamo? Andrea da Milano, forse Porta a Porta, forse Porta a Porta. Andrea da Milano, dalla registrazione di Porta a Porta, dove c'era anche la Mussolini, la Meloni e la Santanchè. Andrea da Milano. Eccolo. Sente? Vada. Sì, allora sarò sintetico perché so che piace a lei così, anche perché mi inizia il film, sono qua al cinema. Senta, C'è il dibattito sulle primarie del centro-sinistra, lei sta al cinema. Sì. Che gli frega. Preferisco, registro. Regista, senta, giusto, no, giusto. Io prima ero in macchina, sentivo Sallusti. Sì. Poi sono dovuto scendere, quindi mi sono perso, credo, qualcosa che abbia detto. Quindi non vorrei, con le cose che dico adesso, magari andare contro cose che lui poi si è replicato. Vada. E magari anche altri spettatori hanno detto le stesse cose. Comunque, tre cose. Sallusti mi sembra che abbia detto che lui è pro carcere per chi pubblica cose false solo per danneggiare qualcuno. Allora io dico che è quello che è successo proprio a lui. Cioè lui è stato dimostrato che, tra l'altro non lui, ma Farina sotto mentite spoglie, sì, ha scritto delle cose false su quel magistrato che aveva... Non l'ha scritta lui, già non le ha scritte lui comunque, già non Farina le ha scritte lui, appunto, Farina, già non le ha scritte appunto. Lui, ma questo sì. È fondamentale. Aspetta, mi faccio dire, allora. Sì, ma lui dice anche che il carcere si può fare. Lui arrivavo dice... a Farina, ci arrivavo, dai un attimo, cruciale, un secondo solo. Allora, quindi è stato dimostrato che comunque chi ha scritto quelle cose, lui ne risponde... Lupi no primaria il 16 dicembre, un attimo, devo dare una notizia, abbia pazienza. Lupi no primaria il 16 dicembre, Meloni rinviamole, a questo punto non si possono più tenere primarie il 16 dicembre, dice Lupi che è uno di quelli favorevoli alle primarie. Invece allora, la Meloni ribadisce, le primarie si devono fare comunque, sono a dicembre, a gennaio, eccetera, eccetera, eccetera. Vada. Posso? Allora. Vada. Quindi è stato dimostrato dalla sentenza che lui, che Farina comunque per il giornale, ha scritto delle cose false al solo scopo di danneggiare quel magistrato che è stato, detto falsamente che aveva indotto all'aborto quella ragazza. Sì, però adesso non entriamo nel dettaglio. No, allora lui ha fatto quello di cui lui adesso dice che manderebbe in galera le stesse persone che lo facessero. Allora, ma non è la stessa cosa, perché lui ha aggiunto che bisogna deliberatamente. Lui l'ha fatto deliberatamente, lui o Farina. Ma non è vero, non è così, l'hanno fatto sulla base di informazioni che non avevano. Era facilissimo informarsi sul perché e per come quella ragazza aveva abortito. Ma no, perché quell'articolo, guardi che io non ho nessuna clemenza, non ho nessuna clemenza con qualcuno. È stato chiesto un commento a Farina su una notizia che poi si è rivelata falsa. Loro dicono di non avere che non avevano l'ANSA all'epoca. Ma le sembra credibile che non abbia l'ANSA? Non lo so, è possibile. Un sacco di giornali quando nascono hanno l'ANSA perché costa tanto. È possibile, col buon senso di una persona normale, credere che loro non sapessero. Vabbè, Andrea, lei vede, è già nel campo delle valutazioni. È già nel campo delle valutazioni. Non è una valutazione, è una sentenza, non è una valutazione. Allora, il problema è che loro volevano delegittimare tutta la classe di magistrati, delegittimando quel magistrato, perché faceva comodo. Certo. Perché Berlusconi aveva se tutti i magistrati fossero stati screditati, tutta la classe. Dunque? Allora questo, Cruciani, mi sembra abbastanza, no? come argomento. Cioè, secondo lei dovrebbe andare in carcere Sallusti? Certo. Seconda cosa, in punta di diritto, sì, ormai non faccio l'avvocato ma ho fatto legge, mi ricordo che in realtà non c'è neanche bisogno che la notizia sia falsa per la fattispecie della diffamazione. È sufficiente, e qui Sallusti l'ha già fatto, dire cose anche vere solo per screditare la reputazione di qualcuno. E mi rifaccio al caso Fini. Sì, però esempio, guardi che anche secondo me, esempio, che se io sono favorevole, come le ho detto, a carcere in casi estremi, lei mi ha elencato delle situazioni normali di diffamazione che possono essere tranquillamente tranquillamente. No, risarcite con il denaro, risarcite con il denaro. Cruciani, il primo caso non è estremo. Secondo me il carcere, secondo me il carcere è comunque una misura estrema. Grazie Andrea, grazie. Buon cinema, ho capito, devo chiudere qua. Dica. Allora, questa la chiedo a lei e agli ascoltatori se interverranno. Non le sembra il caso che, visto che si sta facendo una nuova legge, perché tutte le altre bozze sono fallite, di inserire l'impossibilità per un giornalista di scrivere sotto mentite spoglie? Ma tanto si sa chi scrive, comunque è facilmente rintracciabile, identificabile e rintracciabile, ed era facile anche in quel caso. Forse le inchieste sono state fatte male, perché Feltri ci ha detto, per esempio, che se gliel'avessero chiesto all'epoca avrebbe subito detto che era di farina. Carlo da Genova, veloce Carlo dica. Sì, solo per osservare quello che aveva detto prima lei, quando lei viene, sto parlando sempre del discorso Sallusti, della diffamazione. Allora? Però quando viene a dire Parenzo che non esistono perlomeno situazioni che possono causare la morte, perché un atto su un giornale possa causare la morte, io le potrei citare almeno due casi che io ho visto sui giornali, un ragazzo di Treviso e qui a Genova uno che si è un medico che si è buttato dalla finestra, perché voglio dire l'hanno trittato sui giornali come spesso e volentieri si usa fare, questo sì. Si è buttato dalla finestra causato da un'informazione, ripeto, certo, generata appunto da un giornale. Ora io credo che in queste situazioni qua qualcuno deve pagare per forza, quindi non è vero quello che dice. Cioè, bene, grazie Carlo, ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara, vive Lotta insieme a voi. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente. Edison, perché tu sei l'energia in cui crediamo da sempre. Vi ha presentato La Zanzara.